due minuti di ritardo. A Bari su, c'hai rotter cazzo, eh. Ma io c'ho parlato prima di lui, me l'ha capito. Silenzio la vecchia! Si apre. La zanzara. Tutto il resto è già. Gioia. Dato che sono un duro, non mi aspetto di piacervi, ma più mi odierete, più imparerete. Io sono un duro, però sono giusto. Qui non si fanno distinzioni razziali. Qui si rispetta gentaglia come negri, ebrei, italiani o messicani. Qui vige l'eguaglianza, non conta un cazzo nessuno. I miei ordini sono di scremare tutti quelli che non hanno le palle necessarie per servire nel mio beneamato corpo. Capito bene, luridissimi vermi? Signor sì, signore! Ah, che cazzo, non vi ho sentito! Signor sì, signore! Questo figlio di una gran puttana... Questo figlio di una gran puttana... Questo figlio di una gran puttana... Povero Demetrio, siccome lei è uno che è cresciuto comunista di merda, quale comunista di merda, dove l'ha visto regime comunista ignorante, dove l'hai visto stupido, stupido, dove l'hai visto in Italia il regime comunista, stupido, grazie per il ricchione. Che ti hanno fatto i gay di male, scusa, i gay di male, a me non mi ha fatto cioè, come niente, lui, questo figlio di puttana usa la parola ricchione come insulto, questo figlio di puttana, capito, questo figlio di puttana usa la parola ricchione come insulto. A me non mi offende, questo figlio di una gran puttana usa la parola ricchione come insulto. Scusa, io non capito? Ho offeso tua mamma, scusa. Lei mi ha dato del ricchione, brutto imbecille, certo, sì. L'ha usato però come offeso, insulto. Però non ho offeso tua mamma. E io offendo sua madre invece, perché chi, mette al, madre, perché chi mette al mondo delle teste di perché cazzo come lei madre? Poteva andare al cinema. Uso, guardi, il suo linguaggio. Lei mi ha dato del ricchione, lei mi ha dato del ricchione. Io dico che lei è un figlio di puttana. Questo figlio di una gran puttana, questo figlio di una gran puttana, questo figlio di una gran puttana, tana, tana, tana, tana, tana, tana, tana. Sai che mi piace quando reagisci così, no, mi ma piace. Non accadrà più, non no, accadrà mi piace più, quando reagisci così. No, mi piace, lo sai perché? No, perché io non sopporto più sta gente. La parola cioè... figlio di puttana, uno non la deve intendere in senso tecnico. Quando uno dice figlio di puttana no, a qualcuno, questo no, è detto. Per no, non è detto. Adesso ti volevo difendere, cazzo, mi stai subito. No, dico, non voglio più usare prendermela così, ma non ne sopporto più questi nazisti. No, ma devi reagire, devi combattere, di la gente ti vuole non che li combatti. Non sopporto più, non li sopporto più come quella feccia che oggi ha schiamazzato con fumogeni persone, e aggressioni davanti persone, al quotidiano La Repubblica di Forza Nuova, sì. Mascherfeccia guidati sì. da un ex latitante che vive credo a Londra, no, un ex latitante, non lo so dove vive, un ex latitante comunque, ricordiamo. Sì, ma erano 10 persone, ricordiamo. Un ex latitante quel signore che viveva a Londra, ricordiamolo pure, un ex latitante. E questa feccia, feccia neofascista, con lacrimogeni, slogan, a volto coperto sotto la sede di Repubblica. Ma qualcuno prenderà un provvedimento prima o poi? Poi si dice che non c'è la marea nera. Davide. Non sarà una marea. Davide. Ma Davide, sicuramente Davide, sono 10 persone. Ma cosa sono 10, ma poi hanno scritto tutto. No, per carità, ma sono dei perché io non condivido nulla. Sono 10 persone e per carità hanno scritto che sono pronti a usare calci e pugni per mettere a tacere quei pedivendoli e cose di questo bravo, tipo. Bravo, meno male che l'hai ricordato. No, tu. Assolutamente calci è giusto. Calci e pugni. Si tratta calci e pugni, 10 persone, 10 persone. Anyway, 10 persone. Ma il reato, cioè, ma non è che ragazzi, io voglio dire c'è il reato però per le chiacchiere forza, le chiacchiere stanno a zero. Stiamo parlando di un clima brutto. Benissimo. Nel paese, allora, questo no, benissimo. Allora hanno dato l'assalto, hanno fatto una manifestazione con dei fumogeni a volti sì, coperti. Ma hai detto bene tu, cioè hanno detto useremo calci e pugni il ragionamento era più ampio, comunque ma è vero, non c'è hanno detto questa questo. È feccia, no, la feccia benissimo. Non ragiona però . Se sono feccia, se sono violenti, se sono contro la Costituzione sì, ma non l'hanno fatto, sai perché fino ad oggi? Scioglieteli, non l'hanno fatto scioglieteli. Perché siccome in quel gruppo si annidano dei veri criminali di professione, la polizia preferisce tenerli alla luce del sole per poterli monitorare meglio piuttosto che nella clandestinità, perché dentro quel movimento ci sono dei criminali, quindi per ragioni di sicurezza evidentemente polizia, magistratura, monitorature, guardando preferiscono vederli perché li monitorano meglio. Questa è la ragione, se vogliamo dirlo tutta. E allora non ho capito. Dopodiché invece si possono monitorare nelle patrie galere, quindi bisogna cominciare a applicare la legge. Ma assolutamente, uno che dice userà pugni e calci, va, per me è arrestato prima che commetta il reato. Si chiama minaccia, Ovvio. Allora la frase è questa: il gruppo De Benedetti agli ordini di Soros, Renzi e Boldrini. Vabbè, ma e questo... la voce, no, per dire, no, la frase su calcio e pugni. Certo, la frase su calcio e pugni. Certo, il gruppo De Benedetti agli ordini di Soros, Renzi e Boldrini è la voce di chi sta attuando il genocidio del popolo italiano. Vabbè, una puttanata. Un'opinione, genocidio, Roma, sì, un'opinione. Roma e l'Italia si difendono con l'azione, spalla a spalla, se necessario, a calcio e pugni. Ora, calcio e pugni si riferiscono non evidentemente, o forse sì, anche a quelli che secondo loro sono responsabili del genocidio. Non farei l'esegesi delle parole della feccia. Non è che ha detto la feccia, io non farei l'esegesi. Vabbè, allora, hanno detto solo calci e pugni, ma in senso metaforico, si fa per dire, no. Cioè, hanno usato parole violente, metodi violenti, minacciato. Lascia stare che sono dei giornalisti, un gruppo editoriale, hanno minacciato delle persone che hanno scritto, in particolare Berizzi, che non lo dico perché è un mio amico, ma è il giornalista che ha ricevuto minacce per le inchieste che ha fatto, per le sue cose. Quindi questo è quello che è accaduto. Poi uno può dire, ma no, ma è solo uno slogan, ma è un modo di dire calci e pugni. Sì, ma se calci e pugni lo dice uno vestito di nero. Ma se sono pericolosi, arrestateli. Da quello che ho capito in queste arrestateli. Io ti sto dicendo una cosa, da quello che ho capito in queste ore, perché ho fatto delle telefonate per capire stamattina, ma per curiosità mia... Ancora non ci sono stati veri interventi come dovrebbero essere, come ci sarebbero già gli estremi per farlo, sostanzialmente, perché qualcuno preferisce monitorarli, vabbè, diciamo così, liberi in giro. Per si monitorano meglio. Per te vanno monitorati meglio in galera, tu dici, in galera. Vabbè. Io dico, a questo punto li monitorerei molto meglio. E sarei anche più tranquillo dal cittadino democratico. Nelle patrie galere. Se fosse, ma li monitorerei tutto il giorno, ma nelle patrie galere, facendoli uscire soltanto per andare una volta all'anno in visita ad Auschwitz di a gennaio, però in pigiama, come erano i detenuti nazisti, caricati su dei vagoni piombati che non sono più piombati, che ancora ci sono, che Trenitalia poi chiudo, mette a disposizione. Appello all'ottima Trenitalia, a Italo, magari agli amici di Italo, che Italo non ha dei treni merci purtroppo, perché ha solo treni passeggeri, ma chiedere a Trenitalia di mettere a disposizione i treni merci dove vengono caricati gli animali, e una volta all'anno prendi i neonazisti, li metti in pigiama e a dicembre li mandi a Auschwitz. Se li fai stare lì una settimana a dormire nelle baracche, basta. Allora, torniamo su Brescia, sul caso di cui abbiamo parlato ieri, Chiarini, quello che ha sparato dal balcone di casa ai ladri del Bancomat. Ottimo. Voci dal luogo, voci dalle grotte. Secondo te cosa dice? So già. Dice la gente? Ha fatto ben, e se sta bravo di più, Bavaria da sparare. Vai. Per me ha fatto la cosa più giusta che doveva fare, che se non facciamo così non andiamo più avanti. Feccia. In Italia. Per voi cos'è, un eroe questo signore che ha sparato? Sì, per me sì. Perché? Perché che ha sparato, almeno gli ha fatto scappare. Gli ha fatti scappare. Io ho avuto a che fare con lui, da una brava persona, ovviamente un ottimo lavoratore. Ma io avrei dato l'ergastolo al bandito e avrei lasciato libero lui. Dalla vostra parte c'era il signor Carabue. Chissà perché hanno chiamato Carabue il nero con la palandrana. Ma povero Carabue, ma cosa c'entra Carabue con chi spara dalla finestra? E con i rumeni ladri? Cosa c'entra? Solo perché è nero? E dice allora ma guarda che è incredibile, veramente. Sono di fare informazioni incredibili. Ma perché ci ha dato lui? Scusa. Perché anche Carabue, diciamocelo, è un esibizionista. Totale. Il signor Carabue, a cui voglio un bene nell'anima, ma anche lui dice: scusi, lo chiamo dalla redazione, di cosa si parla? Di rapine? Vabbè, vengo. Ma a che quota vengo a parlare? Ho mai commesso quota rapine? Negro, quota no. Negro. Ecco, solo perché è nero, i neri fanno le rapine. Ma che cazzo di ragionamento è? Io veramente vado ai matti. Carabue. Che poi attaccano lui, a prescindere. No, ma... Siccome è il negro messo lì, qualunque cosa di cronaca accada, attaccano il povero Carabue. Perché ci va? Ovviamente diceva che è sbagliato sparare. Per cui ma questo lo dico anch'io, addosso. Chiunque. Per cui giù addosso, che... ovviamente, no? Sì. Cosa faccio se mi trovo per strada o se dalla mia finestra vedo che qualcuno sta svaligiando una banca o magari la casa del vicino? Chiami i carabinieri. Volto. Chiami i carabinieri. Ma se quelli mi hanno visto? Se non quelli... prendi un fucile, una mitraglietta, non prendi una pistola, chiami i carabinieri. Noi non possiamo dire ai cittadini: occhio, fate il lavoro delle forze dell'ordine, non dormite la notte, allora, puntate i vostri fucili sui bancomat e se riuscite ad ammazzare qualcuno è anche meglio. Questo è un messaggio pericoloso, non è cristiano, non è umano. Ma chiedo scusa, se tu chiami la polizia dal balcone di casa tua, quello sta rapinando un bancomat, ma pensa che il problema del rapinatore sia guardare te che chiami la polizia o fregare il bancomat? Ma dobbiamo anche essere pragmatici. Ragazzi, la cosa è molto semplice. Io appoggio totalmente chi ha sparato dal balcone, ma totalmente al 100%, anche se purtroppo ha dovuto appoggiare, ha dovuto patteggiare per evitare guai grossi. E tu ti lamenti sempre che la gente tra l'altro non interviene per aiutare gli altri. In questo caso hanno fermato un ladro, questo signore ferendo il ladro. Ma non è un giustiziere della notte. Ma non è un giustiziere della notte. Non era in pericolo la sua vita. Il ladro... quel signore ha messo in pericolo la vita di altri concittadini che abitavano in quella via. Ma non c'era nessuno. La sua non era in pericolo. Lui in più, sparando ad minchiam dal balcone, ha commesso un atto che per fortuna è stato sanzionato dalla legge. Non c'era nessuno. Per fortuna. Chi è nel posto sbagliato secondo te? Quello che spara o il ladro? Chi è nel posto sbagliato? Evidente, di la verità, chi è nel posto sbagliato? Ma se tutti si mettessero a sparare dalla finestra appena vedono muoversi qualcosa sotto casa, ma stai esagerando. No, ma non è assolutamente difendibile e non c'entra la legittima difesa, no, ma non c'entra nulla. L'altra cosa, perché quello era in casa sua. L'altra cosa più assurda è che ha preso una condanna superiore a quella del ladro. Beh, ti credo, cioè, tentato ma questo omicidio. È il punto. Ma ti credo un cazzo! Tentato non omicidio, è possibile una cosa di questo tipo. Mica è una rapina, è tentato comunque, omicidio. Ragazzi, avete mandato tanti messaggi su questo argomento. Tra pochissimo. Come vedete, teste, aprite fuoco. La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Un altro anno gli si viva la Germania per vincere la guerra, un altro anno. Sulla vicenda di Brescia del ladro sparato dal balcone, dimostrazione di senso civico da parte del cittadino bresciano. A lui gli onori, la gloria ed il rispetto della nazione intera. Bravo Cruciani! Cruciani, sei un grandissimo coglione, ma come fai a difendere anche quello che spara dalla finestra? Cruciani, sei un coglione. Sempre solo coglionesti. Quelli là erano in torto, stavano rubando. Punto e basta. Difendiamo gli onesti, difendiamoci a vicenda. Dai, Doccagnari. Difendiamoci a vicenda, che cazzo incolpiamo? Quelli là erano in torto, stavano rubando, noi lavoriamo, quelli rubano. Fanculo Parenzo. Senti Cruciani, ora hai rotto, visto che Parenzo per coerenza deve assumere la Roma, perché tu per coerenza, visto che guadagni 200-300 mila euro l'anno, non stacchi un assegnino da 50 mila euro e aiuti il signore che ha sparato per strada e quelli come te non fanno una colletta per aiutarlo? Oppure solo Parenzo deve essere coerente? Ma stai zitto, cretino. Gli è dati davvero una medaglia e se l'avesse ucciso avrebbe tolto un delinquente da giro, maledetti. Allora, caro Davide, sono arrivati tantissimi messaggi. Sì, tanti messaggi. Devo dire che mi aspettavo più consenso verso il sottoscritto. Ragazzi, oh, ma che siete impazziti? Qui è la dittatura di Kim Jong-un, in questo caso, qui alla Zanzara. Non sto scherzando, naturalmente. Però ci sono un sacco di persone che mi criticano dicendo ma come fai a dire che si può sparare? Ma ragazzi, è miei, così. Ragazzi miei, condannato a una pena superiore a quella del ladro. Ma spara tentato di omicidio e si chiama tentato omicidio. Tentato omicidio? Assolutamente. Tentato omicidio? Ma certo. Tentato omicidio? Ma sicuramente, ma uno non spara, ragazzi, non c'è ragazzi. Legittima difesa. Era in casa sua, si affaccia dal balcone, spara anziché chiamare la polizia. Ma uno, viva ma Dio, quello deve aveva essere paura, condannato. Ha detto, cosa deve detto, fare? Ha detto che aveva paura. Ma quale paura, sti giustizieri della notte che stanno a casa armati come se fossero nel Vietnam. Ma aveva paura. Di Ho Chi Minh. Ma dai, ma viva. Ma neanche all'epoca di Ho Chi Minh, via gli americani dal Vietnam, Nixon, boia. Ma dai, ma manco all'epoca, ma neppure negli anni 60. Allora, dai, ma non diciamo stupidaggini. Allora, il sindaco di Firenze, Nardella, esalta una buona persona, Nardella. La sua ordinanza contro le prostitute. Dice, sostiene, sì, Nardella, ottimo, c'è meno degrado sulle bravo, strade. Abbiamo praticamente Nardella. Dimezzato la presenza delle prostitute, amici bravo, fiorentini. Voi ottimo, sapete, Nardella. Voi i viali a Firenze. Te non vai mai a Firenze. Io vado spesso a Firenze per ragioni, perché è una città che ho da fare a Firenze. Allora? E deve, i viali, ad esempio, sono liberi, sono liberi dalle prostitute. Erano una volta luogo indecente dove povere donne erano sottoposte alla mercé di maiali miserabili invece in cerca oggi è tutto di poco fiori. Amore. È tutto rose oggi e quella a me, dai, non è che sta simpatico il PD di Renzi, te l'ho detto mille volte, quindi te lo ripeto anche dai, qui. Sentiamo Nardella. Ma valuto Nardella. Nardella è un bravo amministratore. Vabbè, e su so, questo in particolare mi pare molto bene. Molti comuni stanno riprendendo la nostra ordinanza, perché è chiaro che più amministrazioni adottano queste misure, più i risultati possono essere efficaci. Ottimo. Inizia bene Inter-Juventus, anzi Juventus-Inter di domenica. Sentite questo, è il presidente di comunicazione bianconera, che non so che cazzo sia, uno juventino, senti, contro gli interisti, senti. Ma ti posso dire il mio desiderio? Io sogno di asfaltarli, cancellarli dal pianeta, togliergli da ogni, piano. Togliere loro ogni piccolo barlume, desiderio, speranza di essere diventati una squadra normale. Devono stare nelle fogne dove sono stati negli ultimi anni, nei tombini, nascosti al buio. Sogno di asfaltarli, devono stare nelle fogne dove sono stati negli ultimi anni, nei tombini, nascosti al buio. L'ottimo lapone, diciamo. Ti pare lapo, no? Che lapo, che cazzo dici? Cioè, è un tizio di comunicazione bianconera, si chiama Pellò. Pensavo fosse, aveva la voce, sembrava lapo. Ma che cazzo dici? Aldo da Torino, dai. Ma sei, sembrava lapo. Sei, dai. Aldo da Torino, vai. Sì, ciao Giuseppe. Sì. Senti, io volevo intervenire sul discorso che i nazisti davanti alla Repubblica sono una puttanata. Perché tutta questa gente qua è figlia di politiche sbagliate. No, è figlia di chi so io, è figlia. No, che ma va bene, sbagliate. Va bene. Guarda, io sono d'accordo con te, Parenzo, assolutamente. È una merda. Però basta, vorrei la stessa copertura mediatica quando i centri sociali spaccano le città. Parlate per una settimana, ma andate ma a vedere no, quello che giustamente vero. Si è detto all'epoca del G8, quando c'erano le manifestazioni, ma si è detto di tutto su quelli che sfasciano le vetrine, ma che scherza, il black bloc, ma si è scritto giustamente fiori paginate e paginate, andate a rivedere quel che si è scritto quando i black bloc devastavano le città, ma che scherza. No, quello succede, è vero che quella roba lì spesso viene identificata come una manifestazione di protesta e quant'altro, e invece quelli sono 10 persone e c'è il pericolo fascista, assalto fascista. Ma non sono 10, ma per carità, ma sono 10 qua, poi ci sono quelli di Como, poi ci sono quegli altri dall'altra parte, non sono 10. Ma non c'è mai un'equidistanza. Gilberto Ravenna, ho capito, Gilberto Ravenna, vai Gilberto. Sono qua, io volevo intervenire per quello che ha sparato dal balcone. Allora? Io secondo me lui non ha fatto bene, perché allora? per due motivi. Quali sono? Lui non ha capito che non gli davano la medaglia. E secondo motivo, la banca c'ha l'assicurazione. E dunque doveva farsi i cazzi suoi. Se ne fregava, esatto, lui i cazzi suoi. Doveva chiamare la polizia. Fermo lì. Che cosa, mio nipote? Hi, I'm Lily and I'm 7 years old and I'm from Australia and I think La Zanzara is the best program ever. Bye. Hi, I'm Cecilia from Sheffield, England and I think La Zanzara is the best radio program ever. It's the best program ever. Mio nipote è stato in Inghilterra a fare il master. La Zanzara is the best radio program ever. Bye. Il segnale orario vi è offerto da Rive, rassegna di enologia e viticoltura, 12-14 dicembre, Pordenone Fiere. De Giro, il trading online a commissioni basse senza precedenti. Visita degiro.it. Vi presenta La Zanzara. Ehi! Ehi! Italia! Mamma mia, ma che cazzo il diavolo fa? Italia! Svegliati! Oh! Qua giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fare l'800-24-0024 oppure se volete mandare un faccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393-71-71-701. Naturalmente. Sparare, sparare, sparare, trivellarli di colpi dalla finestra. Trivellarli di colpi, guerra e guerra deve essere. Lo Stato italiano deve andare a fare in culo. Trivellare di colpi. Ovvio, ovvio. Cruciani, ma sei fuori? Il tipo che ha sparato fuori dalla finestra è pazzo, perché quando gli hanno chiesto che cosa avrebbe dovuto fare, cos'è che avrebbe dovuto fare? Avrebbe dovuto chiamare i carabinieri, anche il mio vicino di casa ha beccato i ladri di fronte che entravano nella villa, cos'è che ha fatto? Ha chiamato i carabinieri, cioè non è che si è messo a sparare come nel Far West, come un cowboy, che poi puoi beccare gente che non c'entra niente e ammazzarla. Ma come cazzo fai a dire che uno può affacciarsi dalla finestra e sparare? Cioè, ma stai scherzando davvero, spero? Cioè, qui sei fuori proprio dalla legittima difesa, per quanto io condivida le tue idee su tale, però affacciarsi a una finestra e sparare perché vedi che qualcuno sta rubando mi sembra un po' eccessivo, può prendere chiunque. Boh, vabbè. Cruciani, continua a fare così, a fomentare sti quattro mongoloidi che si sentono Clint Eastwood, che prima o poi ti meriteresti una bella pallottola vacante, ovviamente niente di grave, qualcosa di striscio tipo su quei capelli lordi schifosi che c'hai, però questo ti meriteresti, qualcuno che si affaccia vede uno che parcheggia in seconda fila e gli spara, e per te tu sai cosa diresti? Ha fatto bene, però finché non ti arriva la pallottola nel culo a te. Ma voi siete completamente impazziti? Cosa c'entra? Cosa c'entra uno che nel traffico sparare? Cosa c'entra di notte un bancomat, dei rapinatori, uno che si affaccia alla finestra, il bancomat sotto? Ma non cosa siamo nel Far West. Ragazzi, io ma vado non ai pazzi. Siamo nel La Far condanna West. Superiore a quella di un ladro. Ma certo, è un tentato omicidio. Mamma un signore mia. Che prende un fucile e spara mia, all'impazzata mia. Da un balcone. Ma dove mia. Siamo? Ma nel Far West? Mamma che è uno sceriffo quello. Lì. Ma che Mauro, che roba Mauro è? Da Brescia, dai, Mauro da Brescia. Meno male che c'è un po' di indignazione. Qui c'è il mondo completamente invertito. Completamente invertito. No, ma io capisco l'opposto, la provocazione. Ma non c'è nessuna provocazione. Per riflettere sulla legittima difesa. Di ma qui non è legittima difesa. Qui non c'entra niente la legittima difesa. Io capisco quelli che fanno le provocazioni, che dicono in casa propria, ma infatti è già così: in casa propria, se ti entrano in casa Fate, per rubare, quello era a casa, puoi sul sparare. Balcone. Quello era a casa, non stavano rapinando casa sua, quello si è affacciato dal balcone. Ha sparato, è una cosa vergognosa, pazzesca, con il ladro sotto che rapinava la banca, pazzesco, ferito il ladro. Cioè, insomma, diamo, mi sembra più, che perdiamo diamo una condanna superiore a quello piuttosto allo che allo stato animale, non allo stato Mauro di diritto. Da Brescia, dai, ma da Brescia. Nella giungla funziona così. Si può parlare? Dimmi. Si può parlare? Dimmi. Ascolta, io abito proprio su quella via lì. Quella notte lì sembrava che c'era il terremoto. Allora, quello che hanno rischiato questi qua a rapinare, cioè c'era la cassaforte che peserà 2-3 quintali, saltava di qua e di là della strada, che se in caso c'era qualcuno li ammazzava tutti. Secondo me questo qua non è normale, perché è andato a dei ladri che rubano dei ladri, ma poi è assicurato e tutto, cioè ma stiamo... stiamo scherzando. Chi è che non è normale? Spiegami, non ho capito. Quello che ha sparato. Perché secondo non me è normale? Non è certo. Perché dici? Perché se fosse stato a casa sua, posso capire. Ma va a sparare dei ladri che rubano dei ladri. Perché per me le banche sono dei ladri. Cioè, tu dici, siccome su come rubavano in banca che sono dei ladri, allora chi se ne frega? Non è chi se ne frega. Ho capito, però, cioè, se fosse stato in casa sua, posso capirlo. Ma cioè, dai, rubarlo in mezzo alla strada. Ragazzi, ma io qui non sto dicendo è insostenibile, che questo qua è un eroe. Ah, dico semplicemente che il risultato finale è che un ladro è stato fermato. Ma la polizia deve sparare. Cosa della forza, il risultato finale, non dico che tutti devono fare così. Assolutamente. Io Cruciani penso di più a quell'altro, quello che ha sparato là, che è andato dagli zingari. Chi? Io sono più propenso a difendere questo che gli ha sparato. Ti ricorda qualche anno fa che è andato là, che aveva la figlia che è morta per droga, eccetera. È andato là e ha sparato. Quello, secondo me, ha fatto bene. Ma quello è un altro discorso, però, cioè è un'altra storia quello là. Cioè. Però Alfio, provincia di Perugia, vai. Alfio. Alfio. Sì, buonasera. Posso intervenire? Dimmi. Qui vorrei proporre una cosa, visto che tu i ladri a casa mia non devi venire. Sì. Io proporrei di dare 10.000 euro al proprietario di casa che fa fuori il ladro e 5.000 euro chi lo ferisce. Tu a casa mia non ci devi venire. Al limite posso capire quello lì che ha sparato, quello lì sul terrazzo, ma tu a casa mia il ladro no, ma questo qua però è un caso un po' diverso, questo qua non era a casa sua, questo okay, bisogna dirlo. Ok, ma io parlo di casa mia, tu non puoi venire a casa mia a rubarmi. Parenzo, se una sera si trova un ladro a casa sua, che cosa fa? Tira giù anche i pantaloni e poi gli dici guarda ti do anche questo qui? Okay. Questo è un altro discorso. Ecco, punto. Cosa fai, Parenzo, se viene un ladro a casa? No, dì a Parenzo quello che fa. Ma cosa vuoi? Io non ho armi a casa, come si sa. Cosa faccio? Ma non lo so. Allora, chiamo la polizia, mi barico nella camera. Ma chiami la polizia in due minuti? Quello ti sei in chiappetta e ti porta via tutto. Ma lei ha le armi? Lei è armato a casa? No, armato, non sono no. armato, e allora purtroppo. Siamo io e lei siamo nella stessa condizione, cioè lei per alcune ragioni, io per altre, abbiamo scelto di non avere delle armi in casa. Okay, nonostante tu... la paura possa averla anch'io, perché non pensi che non abbia paura, anzi, tutt'altro, penso anch'io, ho paura anch'io di essere rapinato. Sempre i ladri. No, ma le sto chiedendo una. Non difendo i ladri in alcun modo, le sto dicendo: lei è armato? No! E allora che cosa vuole da me? Cosa farebbe lei se venissero in casa sua? La stessa cosa che farei io, immagino, no? Cioè, o si barrica in casa, chiede aiuto, dice prendete tutto ma non fatemi nulla. Non lo so adesso che cosa farei. Farei quello che il 90% degli italiani farebbero in quella circostanza, visto che il 10-15% credo siano armati. Lei fa parte, come me, della maggioranza delle persone non armate, mi risulta. Okay, l'ha detto lei, okay. Ma tu sai che tu vieni a casa mia, tu non sai se sono armato o meno, puoi rischiare la vita, ok? Va bene, ma questo infatti nessuno mette in discussione che ti fa fuori, poi fa cazzi tuoi. La legittima difesa, 10.000 euro di premio se fossi. Ma sto dice la legittima difesa esiste già, non stiamo parlando di questo. Lui vuole dare un premio a chi fa fuori 10.000 euro se lo fa fuori, 5.000 se lo ferisci perché sono sfortunato, poi se te sparo alle spalle tu a casa mia ci devi venire, sti cazzi. Cioè se tu spari a uno, cioè, che una taglia tu hai sostanzialmente sostanzialmente una taglia certo. Taglia sì. Ciao, come ciao. Sì. ciao io credo. Sono pochi 2 anni, dovevano dargli 20 anni. Come cazzo si fa a sparare a della gente che sta rubando la banca? Doveva scendere e aiutarli. Comunque ragazzi, la cosa che mi rallegra è che ieri abbiamo scoperto una cosa, che è la finta del generale Pappalardo, la grande finta del generale Pappalardo. Cioè, ha detto nei mesi scorsi, nelle scorse settimane, attaccato da noi sulla questione del vitalizio, cioè uno che vuole cancellare il Parlamento, arrestare i parlamentari, ma col vitalizio in tasca, ha detto che aveva ceduto il suo vitalizio, aveva rinunciato anzi al vitalizio, che non significa un cazzo, perché non si può rinunciare al vitalizio, al limite lo puoi donare a qualcuno. La realtà è che lui non ha fatto nemmeno una donazione, che ne so, per beneficenza, a un'associazione terza, o a che cazzo ne so, a una fondazione, oppure alle imprese, come fanno i grillini, eccetera. Cosa ha fatto Pappalardo? Praticamente lo ha spostato dal suo conto corrente a quello della sua fondazione. E con questa finta che lui non è più a capo, no, della sua fondazione, il suo movimento, il movimento di Liberazione Italia. Cioè, con la finta che lui non è più a capo, secondo lui, di questo movimento. Ieri abbiamo parlato con il signor Pino, Giuseppe Pino, il presidente finto del movimento di Pappalardo. Ma dica le cose come scusi, sta. Ma lei adesso, il vitalizio di Pappalardo lo prende lei? No, lo prende il movimento. Ma è uguale, è come darlo a se stesso. No, è come darlo a se stesso. Pino, si vergogni pure lei. Si vergogna anche lei. Ma si vergogna lei, ma chi cazzo ma si deve vergognare lei? Ma qua, guarda qua. Ma chi è lei? Pino, Giuseppe Pino, ma chi è? Le sto dicendo che il vitalizio Pappalardo non lo prendi più. Ma lo dà al suo movimento, ma è la stessa cosa. No, si vergogni di avallare questa cosa lei. Si vergogni. Poveraccio. Ma ancora ti tengo là, ma ancora non ti licenzio, no? Ma chi licenzia? Ma che sei scemo, sai? Ma come ti permetti? Ma ancora non ti licenzio. Ma come ti permetti? Vergognati, come ti permetti? Ma non dire le cazzate. Ma come ti permetti? Cosa, non voglio più parlare con questo. Ma chi sei? La testa di legno di Pappalardo. Scusa. Il presidente è stato, voi non conoscete il presidente di che cosa? Il presidente è un uomo molto concreto e dice pane pane e vino vino. Ehi, hey, Cruciani! Quanti soldi deve avere? Dalle ma quelli che sono solo! Porca la puttana, andata a fanculo! Parenzo! Ehi, Cruciani! Ma che è successo? Ma scusa, era andata a fanculo! Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Si vede, si sente, Gesù è qui presente. Si vede, si sente, Gesù è qui presente. Hai capito? Ciao Cruciano, sai quale sarebbe il modo migliore da fare? Ormai oltre la legittimazione. La cosa migliore da fare è da sparare pure a Parenzo. Da sparare pure a tutti quelli che difendono si gran fide la mignotta. Quel rumeno che ha chiamato te voleva dire che in Romania sono molto severi. Come sono severi sia in Germania, l'ha capito? Ha voluto dire che vengono tutti qui a fare rapine. Perché in Germania li piano e li martufano, in Austria i piani li martufano, non è come qui in Italia che i piano dopo mezz'ora stanno da fuori, capito? Perché ci stanno quelle teste di cazzo internazionali come quello stronzo di Parenzo, capito? Che li appoggiano, capito? Invece sarebbe da sparare prima a tutti quelli, cominciando da Parenzo, prima a tutti quelli di che appoggiano i ladri, capito? Cominciamo a sparare a Parenzo, che tanto non serve a cazzo, sta testa di cazzo internazionale, vattene a fanculo, a passi lunghi e ben distesi, a te e chi te mette le scarpe la mattina, stronzo di un Parenzo. Ciao Cruciano, ciao. Beh, no, Quirino, aspetta, una cosa. Intanto sono... diciamo a questo Quirino che si dice mattina e non mattina. Sì, sì, e questa poi. Questa è l'unica annotazione che voglio fare a questo poveretto. E poi, scusa, Quirino, adesso mi hai rotto il cazzo perché. Molti attacco, molti chiamo stasera, ti faccio un culo così. Se stai... Tanto lo so che stai ascoltando. Non è che puoi dire. Bisogna sparare a Parenzo. Beh, perché no, qui combattiamo. Poveretto. Ah, perché tu dici che scherzava? Ma non lo so se scherzava, è un imbecille, mica mi fa paura, sto idiota, figuriamoci. Un povero imbecille. Completamente un analfabeta, dai, ma che me ne frega niente, sto analfabeta qua. Ma perché analfabeta? Adesso perché lo devi trattare così, un analfabeta? È un analfabeta, è un involuto, come lo vuoi chiamare? Involuto, ma dai discorsi che fai è un involuto. Ma involuto, bisogna dire, chiamare le cose con il loro nome. Signor ma chi Quirino, è? Ma signor Quirino, Quirino l'involuto, ma come si fa? Cosa si discute con un Quirico, involuto? Quirico, no Quirino, Quirico. Non capisco perché Quirico è una scimmia involuta, Quirico, cosa gli Quirico. Vuoi dire? L'hai sentito come articola? No, ma non è, ma perché? No, ma che cos'è? allora? È un intellettuale, ma no, ma non è che tutti devono essere intellettuali, ma manco una persona con un cervello normale, è un povero involuto, ma è evidente da come parla, è un involuto, esistono gli involuti. Non è involuto, dai. No, cos'è? Rubbia, cos'è? Che rubbia? Che c'entra rubbia? Non è che bisogna essere per forza rubbia. No, ma non è rubbia, ma non è neanche una persona normale, è un involuto. Una persona normale non parla così, è un involuto. Quirico, signor Quirico. Instabile involuto, poveretto, come ce ne sono tanti in tutte le società, poverino. Il signor Quirico. Il signor involuto. Senti, dì a quel Mauro da Mantova, che quello a me è involuto, ma vattene a fanculo, a cretino. Cioè, aspetta. Io sono involuto, tu sei Mauro da Mantova. Aspetta, abbassa la radio, Quirico, abbassa la radio, Quirico. Almeno quello, impara almeno come si fa. Ma impara almeno quello, matina, involuto. Matina, ma vabbè, in italiano dico, si dice mattina però. Stupido. Ma vedi che stupido. Sei un involuto, un involuto, non posso neanche parlare con sto stupido. Stupido, sciocco, cretino, sciocco imbecille. Sei, uno sciocchino ma sei. Ma senti, a testa di cazzo. Sei uno ma sciocco, volgare me, sciocco. Ma che hai detto a quello lì de ristoratore in Veneto, sì. Che te ne affetta sotto casa. Sciocco no, sei. No, però scusami, Quirico. Sei un poveretto, un poveretto da parlare. Quando persona, devi parlare, no da parlare. Involuto. Involuto. Però scusami. Involuto. Involuto. No, però scusami, adesso involuto che non sa niente. No, Quirico, perché glielo devi minacciare di morte? La minacci di morte, l'hai minacciato di morte. L'hai minacciato di morte, vaffanculo pure te. È una cosa così per modo di dire. Ma un modo di dire. Bisogna sparare, hai detto, bisogna sparare, hai detto. Perché hanno rotto il cazzo, ma comunque. Perché? Perché? Ma perché sta sul cazzo a tutto il mondo? Sciocco, sciocco involuto, sciocco involuto. Come fa ad andare in giro con un cervello simile? Scusa, ha fatto bene. Ha fatto bene quello a sparare, allora, secondo te? Scimmia. Secondo me sì, ha fatto bene, perché quello è un bene comune. Bene guarda comune che ti ho mandato dei messaggi. Sì. Io vorrei ma non vedere, farete allora, tutto il giorno, sta scimmia. Secondo Parenzo, scusami, sì. Fammi parlare. Scimmia. Imbecille, fammi scimmia. Parlare. Scimmia. Stronzo. Vai, vai, dimmi, dimmi. Scimmia. Vai, dimmi. Scimmia. Primordiale. Primordiale. Io, su un messaggio che ti ho mandato, Homo io sapiens ho capire. Primordiale. Il rimpettaio di casa primordiale. Sua. Sì. Primordiale. Aspetta un attimo, fammi parlare un attimo. Aspetta, allora. Chiude il microfono a sta testa di cazzo ebrea. No, no, è ebrei che c'entra allora, adesso, dai. Che sei bolo, allora, sei bolo, sai cos'è il bolo? È l'impasto cosa di cibo masticato, sei bolo, sei materiale di scarto. Suoi, in poche parole, materiale di scarto. Cioè, vabbè, perché quello è una banca, però. Se gli succede un qualche cosa per strada, che gli fanno una rapina in macchina, quello che magari passa... Io magari passo, gli do una mano. No, secondo quello che dice lui, tutti quanti se devono fare i cazzi loro. Sto primordiale. Ma non scusa, però primordiale, ma vaffanculo. Capisci Mauro niente, Mantova. Purtroppo. Non ma che c'entra Mauro da Mantova? Che tu sei proprio un cretino. Che c'entra ma Mauro? Purtroppo non ma capisci, ma scarpa la mattina. Purtroppo mattina si dice. No, lui dice mattina. Allora adesso devi cominciare, se vuoi interloquire con me, devi cominciare a parlare correttamente l'italiano. Hai capito? Se vuoi cominciare a interloquire ma perché con gli dici, me ma aspetta, devi cominciare a parlare perché bene perché gli dici Mauro da Mantova? È come se lo insultassi, cioè un esatto, insulto. Beh, come Mauro da Mantova, ma mi fa acqua, ma mi sciacquo, ma mi fa il bidet questo qua, ma questo qua mi fa il bidet, questo qua c'ha la faccia da arabo. C'ha l'occhio a palloncino come il bradino sì. Ma tu ti rendi conto? Questa... Allora, parlate gli... delle cose serie, di quello che gli sta ascoltatori, facendo Trump. Gli ascoltatori della Trump, zanzara, ottimo. Cosa Trump, sai serie. Di Trump? Trump, cosa sai tu Trump. Di Trump? Che non sai neanche dov'è l'America su una cartina geografica. Troglodita, troglodita, troglodita. Se ti mettono davanti l'America, non sai neanche che cazzo è. Se ti mettono davanti, ma è stato. Roba. Però ma fermo sta roba. Ciao, che sta Quirico. Angeles, Quirico. Quirico. Che sta roba. Scusami Quirico, ma che ha fatto Trump? Che ha fatto bene, Trump? Ma che ha fatto Trump? Sta spostando la l'ambasciata. La, beh, ottimo. L'ambasciata, ottimo. Meraviglioso. L'ambasciata a Gerusalemme. Meraviglioso. Beh, guarda tutte quante le reazioni internazionali. pure il Papa ha detto che sta sbagliando. E invece ottimo. Guarda Trump, ottimo Trump invece. Ah, ottimo, ma vabbè, allora se dici che è ottimo, lo dici pure te. È ottimo, scusa, non ho capito. Cura pure te. Ma come? Sta per fare la terza, la quarta guerra mondiale. Ma che terza guerra mondiale? L'ha promesso in campagna elettorale che avrebbe ma spostato... Ma che ha promesso in campagna elettorale che spostava l'ambasciata? Scusi, dov'è la prima l'ambasciata, sì, Salame? Assolutamente. Dov'è sì. la prima? Vediamo cosa sa questo stupido. Dov'è l'ambasciata? Lo sa, guarda che è informato. Vediamo. Dove stava l'ambasciata americana? L'ambasciata americana stava a... Bravo, subito, Tel Aviv. Dove subito. Si trova Tel Aviv sulla cartina geografica? Dove si trova? Al nord o al sud di Israele? Dove sta? Dentro il culo tuo si trova. Bello, bello. Bello, buco, buco si dice. Buco. Troglodita scimmia. Vengo allo zoo a trovarti. Vengo al bioparco. Sei al bioparco? In gabbia? Vengo a trovarti al bioparco. Ma perché? Ti lancio le noccioline, scimmia. La cosa che non capisco è perché... Perché dai apparenza del Mauro Lamanto, non capisco perché. Ma no, poi perché mi offende, perché a me, è stupido. Parlato il genio. Beh, un po' involuto, Mauro Lamanto, ah, scusi, ho usato una parola troppo complessa. Scusi, lui, involuto, ma cerchi il significato. Scusi, Allora scusi. Lui si guadagna da vive. Involuto. A forza da prenne, va a fanculo, stronci, involuto. Involuto. Vada a vedere il significato di involuto. Capito? Allora, per un vaffanculo via 30 euro, per uno stronzo ne via 20. No, beh, scusami, quindi mi hai fatto diventare allora, miliardario lui oggi. Fa ancora di più lo stronzo. Oggi mi hai ragazza, fatto diventare miliardario. Più, ma io non più capisco perché. Dicono, va bene, d'accordo, però qui ascoltami un attimo. Non capisco perché hai definito Mauro Damantova uno stupido. Guarda che quello si incazza. No, non è che è stupido. È una guerra tra titani. È stupido questo. Come Parenzo. Capito? È uno scontro tra giganti questo, proprio tra intellettuali. Ma è bello fine lei, però. Perché non ci incontriamo, cretino? Ma che c'entra? Quando tutta sta presupopea del cazzo, te la faccio levare. Preso, capito? Come ha detto, scusi, quale parola ha usato? Ci incontriamoci. Aspetta, forse aspetta. Ha usato una parola un po' pratica, complessa per lei. Presupopea, no, cosa ha detto esattamente? Aspetta, Quirico. Aspetta un attimo, una telefonata della mia. Aspetta un attimo. Ha detto presopopea lei? Aspetta, prosopopea. O prosopopea? Che ha detto pre o pro? No, per capire Mauro. Le parole più grandi di lei che utilizza. Mauro. No, Cruce, mamma mia. No. Adesso te lo becchi però. Hai insultato Parenzo dandogli del Mauro Damantova. Dunque, per te Mauro Damantova è un insulto, chiaro? Su chiaro? Dunque. Sì, sì, sì, sì, Mauro, sì, hai capito? Stava dormendo. Mauro, hai capito l'altro. No? Stava dormendo. Ha detto Quirico da Roma. Non sì, svegliarlo, ha preso i psicofarmaci. Parenzo è come te, Mauro, è come te. È una bella lotta per tutte e due. Senti due giganti. Lui dice a lui brutto, lui ti dice brutto a te. Senti il convegno della Treccani. No, calmo. Non confondere la merda con loro. Convegno della Treccani. Da una parte c'ha ragione, sì. E allora va bene così. Lui è un consesso di intellettuali vero. Tu sei loro. Ma tu sei loro. Oro i capelli. Che lavoro ha fatto lui? Cosa? Che lavoro ha fatto lui? Che lavoro ha fatto lui nella vita? Mai. Che ha fatto? È un cazzo. Ma comunque ha fatto il giornalista, ha fatto il giornalista. Più parolacce più parolacce. Ma che c'entra che non è laureato? Ma che bel convegno. Lui sta percentuale, tua radio 24 sta percentuale. Sì, ma tu gli hai detto che fa schifo ed è brutto. Adesso senti non ti tirare dietro. Senti l'altro. Gli hai detto che è brutto. È meglio Mauro Damantova però che Parenzo. Tolga le è mani dal carino, volante quello, mentre parla, quello è evidente. È più carino Mauro Damantova che Parenzo. Sì, certo, adesso, per chi ha conati di mobito sicuramente. Adesso non voglio fare il bellone. Però non mi risulta di avere le occhiaie. Ci sono altri problemi. Neanche la faccia d'arabo, lui invece c'ha la faccia d'arabo. Fermi tutti, ragazzi, su. Allora. Allora, Ivo dalla provincia di Monza, vai Ivo. Sarebbe interessante un giorno riunire tutti questi psicotici che chiamano questi qui, Quirino, quell'altro. No, Quirico, una... Quirico. Quello che è Quirico. Quirico, Quirico è il giornalista della stampa, la brava persona, questo è un poveretto. Riunirli tutti in una, in una stanza, metterli, o forse ci vorrebbe uno stadio, non lo so, però in un luogo, metterli tutti insieme e vedere allora, come si relazionano. Ci faremo un esperimento sociale, capito? Dimmi. Allora, Parenzo. Io ho subito un'aggressione indiretta, no, a casa mia. Praticamente hanno messo una bomba sotto il banco di casa mia, hanno infilato del gas, la bomba è esplosa alle 3 di notte, no? E io chiaramente sono uscito in mutande sul balcone e ho visto che c'era questo qua che aveva in mano un Kalashnikov, aveva un passamontagna nero e mi ha minacciato di entrare. Allora io in quel momento, se avessi avuto una pistola, probabilmente li avrei sparato. Sono oltretutto un ex carabiniere perché questi mettono una bomba. Questo sotto casa tua naturalmente, sì, no? Sì. Sotto casa mia. Ma certo, questi, ma ragazzi, ma è normale, ma ragazzi, la reazione di quel signore lì che ha ferito un ladro, ma ripeto, se la bomba un ladro, un tubo del gas buttava giù tutta la casa. È normale la reazione, cioè, poi per carità, non si deve dire fate così, non si deve dire fate così, per carità di Dio, perché è un'istigazione a sparare. Sì, ma ragazzi, ragazzi, due anni e otto mesi ha preso questo qua, due anni e otto mesi ha sparato, sta per uccidere una persona. Ma come ti difendi da una bomba sotto casa tua, tu? Ma la bomba, ma lei è armato? No, io sono un allora, po' siamo basta. Siamo però punto e a capo, vede? Gli avrei sparato, perché loro non si devono permettere, mia moglie che piangeva, mio figlio che piangeva, cioè non vi rendete conto del danno che fa questa gente qua? Fa danni veri, seri, cioè se la bomba era troppo grossa buttava giù la casa, è andata bene. Vabbè. Ma cosa ne sanno loro che c'era un tubo del gas lì vicino? Ciao, se Ivo. Ne fregano. Ciao Ivo, ciao ciao. Allora, sono molto curioso di capire come la pensa su questo episodio di Brescia. Gianfranco Librandi, eccoci qui, Librandi. Ciao, come stai? Bene, ecco. Bene, non c'è male, non c'è male. Ovviamente meno io difendo chi adesso... ha sparato, Librandi, io difendo chi ha sparato a spada tratta. Perché sei a folle, no, sei un pazzo. Non sono Guarda, folle. Guarda, Giuseppe, a lui hanno dato 2 anni e 8 mesi, a te dovrebbero darne 5. Ah, 5 perché, anni. Sì, 5 perché anni. Tu che hai una responsabilità lì alla radio, sì, vero, e parli con tutti i cittadini, non puoi dire le cose che dici, vai arrestato, vai... messo in condizione di non nuocere. Io, sì, tu, io vado tu, messo tu, in tu. Condizione di non nuocere perché sì, dico esatto. Che uno perché dico perché che uno che ha preso 2 anni e 8 mesi istiga rispetto a al ladro che ha preso 2 anni e 4 mesi è una vergogna, è uno scandalo. Ma istiga a commettere un reato. In Italia c'è una legge sulla legittima difesa che permette a qualsiasi cittadino quando un ladro entra in casa di sparargli se non c'è desistenza, ci sono delle situazioni particolari. Giusto. Però che cosa succede? Non si può sparare a una persona che non attacca, che non diciamo non crea nessun danno personale, perché questa persona mi sembra di capire che ha sparato dalla sua finestra a dei ladri che stavano criminale. Rubando. È un criminale quello che spara, certo, ovvio. No, quello che spara è un criminale. Io avrei avvisato subito le forze dell'ordine. Esatto. Che erano già state avvisate. Al massimo posso capire che uno per così... diciamo per un momento di tensione può sparare un colpo in aria, cosa che ha fatto, due colpi in aria e deve dire le perché parole siamo... tipo attenzione che sto sparando perché è così che si fa e dopodiché deve lasciare il lavoro alle forze dell'ordine. Ma c'è, si mancherebbe, spara certo. Una persona dovrebbe ragazzi. Meditare sul fatto che questa persona ha dei genitori, dei fratelli, magari dei figli, è un Bravo. Delinquente sicuramente, però non si toglie la vita e non si spara a parte che è stato ferito, è stato la polizia ferito. Spara. È stato esatto. Ferito la polizia ha l'uso legittimo della forza, questo esatto. È il punto. Scusa Librandi, ma chi è che nel posto sbagliato in quel momento, quello che spara a casa sua e tra l'altro fucile che possedeva regolarmente, ci oppure il ladro altro. Che sta sfondando un bancomat e stavano terrorizzando la zona, terrorizzando alla vita di questa esatto, persona esatto, non esatto, ma quello non sai cosa può succedere sotto casa, è sotto a parte il fatto che oltre alla legge c'è un problema etico, un problema cioè, diciamo morale. Quello io non ammazzerei mai nessuno, tu ammazzeresti qualcuno? Ma io non so, se capita mi stanno rapinando, se stanno stuprando tua figlia non ammazzi tu certo. Gianfranco, e ma allora che dici? Ma allora che dicendo? Dici? Ma cosa dici? Io non ammazzerei allora, nessuno, hai detto, non è vero, non... in casi estremi ammazzeresti anche Ascolta. Tu. Io ammazzo qualcuno quando me lo permette la legge, in caso sono minacciato. No, ma tu hai detto, familiari... prima hai detto una frase: io non ammazzerei mai nessuno. Sì, nella situazione del signore che ha preso 2 anni e 8 mesi non lo farei mai. Vabbè, quello ma è un altro discorso. Quello ma è un altro tu discorso. Invece hai detto che ha fatto bene. No, per me ha fatto benissimo. Ha fatto benissimo a reagire. Allora adesso tu, dato che sei un intelligentone che ti vuoi così tutte le sere esibire verso gli italiani, ci spieghi a noi italiani normali perché ha fatto bene. Ha fatto bene per un semplice motivo, ladro, perché il ladro era là che stava rubando la cassaforte, lui era sul balcone, ci spieghi perché gli ha tirato 11 colpi, dai, perché forza. Due colpi li ha tirati in aria, gli altri li ha tirati perché si era spaventato, non sapeva che cosa stava facendo questo, che era incappucciato, vedeva un pericolo imminente, ma non per la sé, propria stava famiglia, a casa lui, sul balcone, ragazzi in miei, casa ma stava. Che ne sai quello che sta succedendo, che vanno comunque, a fare, per fortuna è stato condannato, adesso non ci per fortuna pure per fortuna, ma è stato condannato, scusa Gianfranco, per te è normale che abbia preso 4 mesi in più rispetto al rapinatore? Sì, è normale, assolutamente, perché il giudice decide secondo le leggi e quindi la legge prevede questo, se per caso, a parte che nessuno dei due farà la prigione, quindi è questo che ci dobbiamo chiedere, se è normale che il ladro non faccia la prigione, vabbè, che lui non faccia la prigione. No, perché capisci che se diamo le armi libere, ma non è le armi libere, quello aveva la sua arma, aveva tra l'altro questi problemi che ci sono adesso di tensione, le armi che stanno aumentando, tutta colpa delle persone come te che aiutano i cittadini, e tu non ti rendi colpa conto di persone che sei come fuori, me, certo sei fuori dal tempo, Chiarini libero, allora, libero, no, quest'uomo libero, graziato, va graziato quest'uomo. Per cosa? Come tu lo sai reato? Come sarà quando farai la tua trasmissione La Zanzara, che sarai lì con il bastoncino tra 20 anni, tra 30 anni, questo no? Lo dici tu, cioè, questo, vabbè, lo dico io, nel senso che male, 80 anni magari sei con la dentiera, dai, allora, facciamo così, allora... tu sarai con la dentiera, sarai in un mondo completamente diverso dove non ci sarà nessun problema perché sarà tutto controllato con le telecamere. Sì, tra 20 anni spariranno i ladri, spariranno i ladri perché se tu guardi sono spariti i ladri dalle banche, dalle poste, perché la tecnologia ci saranno tanti immigrati buoni, no? Tanti animale che è quello che c'hai tu e quello che ha avuto persona, senti, hai capito? Scusa una cosa, innanzitutto tu stai dicendo che tra 20 anni spariranno i ladri, seconda cosa, magari ci saranno tantissimi immigrati, perché tu vuoi tanti immigrati in Italia, no, o sbaglio? Ascolta, tu vuoi cosa, tanti immigrati o no? Se, vuoi se più vuoi immigrati? Parlare degli immigrati, parliamone. No. E allora, io facciamo così. Quanti immigrati vuoi? Immigrati. Quanti immigrati io vuoi ogni anno in Italia? 120, così, giusto? 120. Voglio gli immigrati che coprano quelle zone dell'Italia spopolate, tipo la Val Brembana, bravissimo, tutti i paesi dove ci sono i leghisti. Sì, la Val Brembana. Anche in Abruzzo, pieno di paesi spopolati. La comunità europea ha detto che è una zona di spopolamento. Riace, ma Riace, scusa Librandi, bravo. Ricorda allora, il caso straordinario di Riace, ripopolati in Val Brembana, grazie ai migranti. Portati in Val Brembana, ma questo è deportato. Ma non ci sono neanche più i padani in Val Brembana che si fanno due coglioni così e se ne sono andati dalla Val Brembana. Quando avrai 90 anni li andremo a comprare a peso d'oro, hai capito? Quando sarai un po' rincoglionito che ci avrai bisogno della padania. Tu lo già sei adesso, già adesso, già adesso. Io ce l'ho già adesso, no, lui dico, lui. Tu lo sei già rincoglionito, per cui hai anticipato i tempi. Allora, rispetto quando vuoi parlare seriamente dei migranti, ma ha detto che bisogna ripopolare, non so, hai detto. Certo, a Riace è già avvenuto, non ci sono più adesso, tra un po' non sai più cosa dire perché non ci sono più, perché sono più. Crollati del 70%. Aspetta, non è, allora non è detto, ti racconto cosa succederà, che tra succederà un po'. Che succederà, tra un po' succederà che l'Africa partirà l'economia, perché in verità, intanto poi, che quelli come te gridano io e non combinano niente, noi lavoriamo, voi chi? Perché adesso sei andato con Renzi, vero? Eletto contro Renzi, sei andato con Renzi. Ma è bello questa cosa. No, qua. Io non sono mai stato contro Renzi. No, io sei stato eletto contro Renzi, perché sei stato eletto con Monti, sei io stato anche Berlusconi. Monti, era contro il PD all'inizio. Ma come dicendo, no? Monti all'inizio era contro il PD, come no? Certo. Ascolta, non è vero, noi abbiamo fatto subito il governo dopo, dopo. All'inizio non ho mai votato contro Renzi, d'accordo? Prima eri berlusconiano, prima. Ma tanti anni fa. Berlusconiano, Monte e poi il PD. Quando andavo in giro per il mondo, tutti mi prendevano in giro per le cose che faceva, cioè, in quel il mondo. Sesso, adesso è cambiato. Adesso sei redento, quell'uomo lì che io rispetto tantissimo e stimo tantissimo, ma prima faceva delle minchiate totali. Fermo. Allora io andavo a lavorare, sì, e ti pigliavano per il culo. In Argentina, sì, mi pigliavano per il culo, mi mettevano lì le riviste sul tavolo. Per no, questo sei passato con Renzi. Invece con Renzi vai in giro, no, e che ti dicono? Passato, ho fatto un mio partito contro, vabbè, quella persona lì, per dire, vabbè, io voglio un partito, ma adesso, etico, quando un partito vai, serio. Adesso quando vai all'estero di Renzi che dicono invece? Di Renzi dicono che è un ragazzo veramente serio, infatti all'estero, invece, all'estero ci, ha dicono permesso, che è serio. Ci ha permesso di recuperare, tu lo sai, quando l'ultimo giorno Berlusconi era lì, quanto abbiamo pagato di interessi sui titoli ti di candidi? Stato? Ti candidi? 7,5. Ti candidi? Quanto costano adesso i titoli di Stato? Zero. Ti candidi allora? Ti candidi? Ti candidi col PD? Col PD? Certo, col PD mi candido. Certo. Mamma mia, raga, fermola, fermola, fermo che ti richiamo, fermo. Boldrini, scusami, sei una brava ragazza. Boldrini, sei un'amica dei cristiani ed è morta. Intervengano i commessi. Boldrini, ed è morta. La zanzara. Che cosa, mio nipote? Mio nipote è stato in Inghilterra a fare i master. Bravo Cruciani, libero, io gli do anche la medaglia. La medaglia al valore perché ha fermato dei ladri, dei delinquenti. Medaglia. Carabinieri, buongiorno, vorrei denunciare un tentato omicidio. Sì, mi dica, com'è successo? Sì, stavo rubando onestamente un bancomat e un signore dalla finestra mi ha sparato. Ok? Grazie, arrivederci. Questa è l'Italia, ragazzi. Questa è l'Italia. Questi qua hanno il cervello del papà di Peppa Pig. Hanno il cervello. Voi disprezzate, di, ma disprezzate di il senso comune, il due librandi, disprezzate senso il senso comune delle persone che non stanno con i ladri, Il senso comune non vuol dire buon senso, come ti ho detto più volte. Il senso comune non è il buon comunque, senso. Comunque, per dire due cose, il più delle volte il senso comune è feccia, è immonde stupidaggine. Comunque, due librandi, avete detto che è giusta la condanna, due anni e otto mesi a questo signore. Ma ha tentato omicidio, ha sparato un balcone. Mettendo, ma quando mai? Mettendo peraltro a repentaglio la vita, quella sua me ne frego perché ha sparato, ma mettendo a repentaglio la vita dei passanti, non c'era nessuno di notte. Devo dire due cosine a Librandi su quello che ha detto. Innanzitutto, Prodi qualche giorno fa ha detto che lo spread non c'entrava nulla col Berlusconi, il cervello con Berlusconi, di Peppa Pig, e dunque hanno fatto pagare a Berlusconi la posizione con Gheddafi. L'ha detto Prodi, dunque smentisca Prodi, prima cosa. Seconda cosa, io non ho capito se lei ha detto prima che, e sto parlando con l'onorevole Librandi, che praticamente abbiamo bisogno di tanti immigrati noi. No, io ho detto che ci sono dei paesi dell'Italia che sono spopolati. Certo. Lo sai quanti sono i comuni ma dell'Italia? Cosa c'entra 8.000. Il 10%. Bravo, è vero. Sono spopolati. Voi che allora non avete la studiate sensibilità il caso di capire e dunque, come Librandi, si risolvono i devono problemi, studiare Riace, andate a vedere. Trovare una soluzione e dunque con mandiamoci migranti. Delle persone. Mandiamoci migranti. Certo. Mandiamoci gli immigrati più mandiamoci gli immigrati popolati. Ma scusa, ma senza quelli immigrati come te, sì, quelli come te, no? Quelli che difendono, quelli che ce l'hanno duro, che però non producono figli. Ma che allora, c'entra? Io ho una figlia, ma che cazzo dici? No, ma sei impazzito? No, ma tu ho detto io ce l'hanno duro, difendono... io non ce l'ho duro per niente. Anzi, allora, spesso quelli non che difendono quelli che ce l'hanno duro, ho detto, non te che non ce l'hai duro. Tu lo usi Viagra? Lo usi Viagra tu? No, non lo uso Viagra. No, magari c'è bisogno del Viagra, ma per carità, va bene, anch'io ogni tanto uso Viagra, non c'è niente di male. Perché tu lo usi? Magari che ti fa male. C'è un mio amico che è rimasto secco col Viagra. No, veramente, in che senso, scusa? Okay, ha preso il Viagra e poi mi ha chiamato la moglie e mi dice, guarda, vieni qua a trovarlo. Che abuso di Viagra. Abuso di Viagra, abuso hai capito? Viagra. Non so, magari è stato un caso, però. Ascolta, comunque, il problema dell'immigrazione è un problema molto serio. Vabbè, questo lo sappiamo. A parte, il fatto che ma tu vuoi portare gli immigrati in Val Brembana? Io voglio lavorare insieme a... Guarda, per esempio, nel Parmigiano ci sono già i SIC che lavorano. Lì, brava, no? Ma allora, anche in provincia di Roma verso ci Ostia sono, ci sono tanti gruppi di immigrati che stanno aiutando voi, la voi ripopolare. Tu lo sai quante, ma tu lo sai quante piccole aziende hanno fatto gli immigrati in Italia? 550.000. Ma questo che c'entra? Ma c'entra, ma perché tu sei... Scusa, ma senza gli immigrati siamo morti noi, senza gli immigrati siamo in gravissima difficoltà. No, ma siamo un paese finito, secondo siamo te? Siamo un paese che avrà tanti problemi, a meno che decidiamo dunque, di diminuire... Dunque 100.000 all'anno, 100.000 all'anno... Sì, 100.000 all'anno potrebbero essere un numero giusto, 100.000 immigrati all'anno. Erano 300.000 che arriva, adesso sono molto di meno di 100.000. Roba pazzesca, però, dopo Berlusconi e Monti si candida pure con Renzi, dai, è pazzesco, dai. Cioè. Ma puoi saltare, perché non salti un giro? Sei un imprenditore, che cazzo ci stai a fare in Parlamento? Guadagni un sacco di soldi. Io che ci fai con lo stipendio da parlamentare, tu che sei ricco? Io cerco di fare il mio lavoro bene. No, ma tu che ci fai con lo stipendio da parlamentare? Che ci fai con lo stipendio da parlamentare? Non spagherai i vestiti, cosa vuoi che faccia? Non si fanno queste cose, non si dicono queste cose, però perché credo no? Che tutti dillo, quelli che mi conoscono sanno cosa faccio con il mio stipendio, cioè che faccio ci fai? Tante cose positive per gli altri. No, ma che tanti... ci fai con lo stipendio dato che non hai bisogno? Ma non c'è bisogno, lo stipendio, lavora. Aiutiamo altre persone che hanno bisogno. Cioè tu lo devolvi in beneficenza lo stipendio da parlamentare? Assolutamente, io aiuto molte persone, ma cioè, non il tuo non stipendio mi vale da parlamentare? No, ma dillo, lo stipendio da parlamentare lo dai in beneficenza, non hai bisogno. Che vuole, no? Magari anche di più, no? Capisci? Vabbè, ma no, proprio lo stipendio, quando ti arriva l'assegno, quell'assegno lì, dove va a finire? Dentro un conto corrente andrà a finire? No? Sì, questo assegno qua è un assegno che è stato diminuito. Vabbè, tu ma lascia perdere. Sì, lascia perdere. Arrivano abbiamo gli assegni. Abbiamo tolto il contributo ai partiti. Abbiamo perché fatto te ne frega tante cosa cose, fa no? Con questi soldi? Se allora, li guadagna onestamente, fa il deputato. Li terrà come vuole, no? Che ho la testa libera e posso, non sono come coloro che devono star lì a guadagnare questi soldi, poi c'è il partito che gliene toglie un po'. Allora io conosco ragazzi lì che non arrivano a fine mese. Mi stanno scrivendo adesso, a me hai sta capito? Simpatico Librandi, com'è? Perfetto, mi sta scrivendo una persona anche molto simpatica, carina, importante, allora, con una professione. Io ti chiedo, mi ti chiedo. Hai detto che io Librandi. Faccio male all'Italia, non lo hai detto che faccio male all'Italia. Devi cambiare. Ma che cambiare, vai, 100.000 immigrati all'anno, ripopolare la Val Brembana. Dai, su. Gli immigrati sono delle persone, molte spariranno persone, i ladri tra 20 anni, hai detto delle cose assurde. Sono di altissimo livello, alcune di loro sono delle persone che se contrario? Ci parliamo comunque c'è consenso per Librandi, no? Capisci? E quindi c'è abbiamo consenso. Bisogno di... Lo sai che mio papà era un immigrato perché veniva dalla Calabria. Ma si faceva un mazzo così lui però, diverso. Mica stava a ciondolare nei centri di accoglienza. Mica stava a ciondolare nei centri di accoglienza. È venuto a liberare il nord e dopo ci siamo trovati. Senti, ma la Lega va messa fuori legge secondo te? Ma diciamo che la Lega, secondo me, io sono stato invitato tante volte dalla Lega alle loro feste, ho trovato delle persone meravigliose, no? Però ci sono dei capi della Lega che dicono delle cose inaccettabili, no? Vabbè, e quindi sì, no, inaccettabili. Quindi, dato che io gli do sempre. Sì, ti dico com'è, è simpatico Librandi, è simpatico molto. Di smetterla di proporre la flat tax, l'odio tra un partito e l'altro, tutte queste cose. Comunque però, c'è consenso, Librandi, perché mi arrivano messaggi di persone, ciao, ben istruite, ciao, belle persone ciao, che dicono che sei simpatico. Ciao, grazie. Stai tranquillo. Ragazzi, Vincenzo da Caserta, dai. Che fatica, carissimo. Dimmi, Vincenzo, dimmi. Grandissimo chiavettino romano. Come no, stai? Non ho capito. Non ho capito che hai detto? Vabbè, te lo dico dopo. Che cazzo ne so? Senti, ma chi è sto Librandi? Ancora con il PD, ma un giro, diciamo, in panchina lo possono fare questi del PD? No, ma non era del PD. Non era del PD. E non lo so, ha cambiato un po' di cose. Il PD deve fare un po' di panchina, non si può giocare sempre. Il dipende sì, ma ho capito, amico mio. Sai, dipende anche dagli elettori, dipende anche da quello che vota la gente. Questo non è vero. Allora, ti volevo che cazzo raccontare vuoi? Due secondi la mia storia. Qual è la tua storia? Entro uno in casa e io sfortunatamente non lo riuscì ad acchiappare perché se ne scappò in tempo debito, se no lo buttavo dal terzo piano. Sì. Abiti al sesto tutte piano. Tutte le conseguenze. Sì. Al sesto piano. Un altro garantista. Presi il bastone, c'ho cioè una bella collezione di bastoni. Di bastoni. Con le teste d'argento. Chiamano degli spostati, rari proprio, rari. Ma parla sempre su coglioni di Parenzi che lo so che questo è Vincenzo da Caserta. Non fa parlare Vincenzo a nessuno, ma non me ne fotte proprio. Vincenzo da Caserta. Sentiamo, forza. Altra testa fina, cruciato, come si direbbe, il no? Il grande chiavettino, questo c'è il chiavettiere, hai detto chiavettiere. Chiavettiere è quello che scopa bene. Però sì, non usi parole che non conosce, perché fa anche brutta figura. No, evidentemente parli un linguaggio a lei più consono, come si vede. Mi dà del lei, trovo l'une. Marco da Torino. Lo so che tu sei il pappagallo che parli sempre su, prendo le distanze dai miserabili. Prendi tutte le distanze, che ci frega, caro mio. Marco da Torino, vai Marco. Ciao Beppe. Dimmi. Senti una cosa, adesso io sono volevo parlare del discorso di questo tizio che ha sparato. Sono anni che vi ascolto, che vi sento. Tu hai una posizione e Parenzo ce n'ha un'altra. Io, secondo me, la mia opinione vale zero. Ma se io credo che nessuno vuole sparare a un altro, io penso che nessuno voglia sparare a un altro. Il problema è che non siamo difesi, non siamo tutelati, non siamo protetti. È questo che probabilmente ci porta a fare dei comportamenti che non sono comunque giusti, perché comunque sparare a un'altra persona ci vuole anche del coraggio, ci vuole per ma farlo. È chiaro che quelle persone lì si sentono indifese. Quelle persone lì si sentono indifese per quello neanche, che sparano, non sono degli spostati. Neanche i carabinieri, perché allora i carabinieri, polizia, tutti quelli che devono intervenire, nel limite della loro possibilità lo fanno. Il problema è che poi ci sono avvocati, giudici e tutto quello che cazzo conta, che buttano fuori della gente che magari ti spegne un ferro da stiro sulla faccia, che è successo qui intorno a noi, un paese vicino a noi, della gente che io conosco, e non succede niente, non è possibile però così, capisci? Non è possibile. Quindi non va bene la tua opinione, non va bene quella di Parenzo, secondo me. Sì, va bene la tua invece. No, io ti sto dicendo che se fosse tutto uguale... Cioè, non va bene quella sua, va bene la mia. Ma no! Per carità, va bene. Ma no, io ascolto, va bene anche questo. Fondamentalmente io sono con te, fondamentalmente. Ragazzi, io non ho detto che ha fatto bene. Ho detto che ho detto che ha fatto bene, scusa, ho detto che ha fatto bene. Il punto non è che ho detto che un'istigazione delinquere. Tutti devono fare come questo. Ho detto che nel caso specifico c'era in corso una specie di rapina ai bancomat della zona. La gente del posto era spaventata, hai detto che era notte, non c'era nessuno in giro. Come c'è a sapere che era? Che indagine hai fatto? Ma se hai detto che non c'era nessuno in giro, ma che c'entra? La gente del posto chi era spaventata? Nessuno usciva, certo. È uscito il vendicatore mascherato. Non ho capito. Quale venditore mascherato? Ma dai, lui si è messo a sparare sul balcone di casa. Neppure in Texas, nei film, lì, ragazzi, Mission Impossible succede l'Italia che c'è la gente che spara dai ranch. L'Italia è con me, questo è il punto fondamentale. L'Italia è con me. Le gabbie dei matti sono... No, ma l'Italia è con me, sono sicuro che la condanna superiore è quella del ladro. La condanna superiore a quella del ladro. Perché nella nostra diritto si tutelano le persone e le cose hanno un'altra tutela. Le cose vengono tutelate nel diritto meno delle persone. La vita di una persona vale di più di una cassetta di una banca, capito? Negli stati civili funziona così. Marco. La vita delle persone è preminente rispetto a quella delle cose. Se ci fosse qualcuno se che stavano stuprando una donna che farei? Se stavano stuprando una donna là sotto, cosa delle persone. Ma me ne sbatti i coglioni della vita delle persone. Delle persone. La vita delle persone. Se stavano stuprando una donna. Più della vita, se stavano più delle stuprando cose. Una donna, che cosa avresti lì fatto? Lì magari la cosa sarebbe stata diversa. Ma stavano. Diversa. Le oggetti. Ma guarda che nel nostro diritto le cose hanno una tutela, le persone ne hanno un'altra. Parenzo, è un principio basico. Il diritto che tu enunci così. No, non c'è più. Patrick, provincia di Macerata. Ciao Marco. Patrick, provincia di Macerata. Ciao, buonasera. Dimmi. Una cosa, io sentivo Parenzo un pochettino teso le ultime puntate, questo no? Qua? Come si chiama questo? Patrick. Sì, Patrick. Sì, volevo dire a Parenzo che le tecniche di allungamento del pene stanno facendo passi in avanti. Guardi, quindi, se c'è Parenzo, una cosa per te il futuro cui... sì, è radioso. Mi fa piacere che lei, come dire, si preoccupi di questo. Le posso garantire, purtroppo, come dire, non ci conosciamo approfonditamente, quindi diciamo mi è difficile fornirgli le prove, che da quel punto di vista non ho mai avuto problemi nel lamentele. Io direi che sotto l'albero di Natale un bel parenzone ci mettiamo invece. Capito. Che parenzino. Le voglio dire che da quel punto di vista nessuno si è mai lamentato. Potresti raccontare un po' di tue misure, diciamo. Non me lo sono mai misurato, neppure da bambino, quando era un gioco che si faceva. Siamo sotto i 20. Lì ci vorrebbe Rubbia a misurarlo con quei microscopi scientifici. Questa è una battuta anche divertente. Anche in 3D lo può vedere se le fa piacere. Anche in 3D con gli occhialetti che si usano al cinema, presente, quello si impressiona. Luciani, una cosa, tu che frequenti le feste quelle della Roma Bene, no? No, io non frequento nessuna festa della Roma Bene. Allora, mettiti 5 centimetri anche tu, se lo sanno che ti saldano addosso, se sparge la voce anche tu, capito? E anche io cosa? Lei è molto attento a queste dinamiche, diciamo, interessante. La voce di cosa? Io vi voglio bene, sotto l'albero mi ridate qualcosa di importante. Ciao. Con me è finito, te l'avevo detto, se entro venerdì non mi chiami, te la faccio pagare. Non mi hai chiamato, io lo sapevo già, ma quello già lo prendi nel culo te, perché c'è cosa c'è di bello? Sai che c'è, Crociani? Che io non ci perdo niente. L'olio ce la perdi tu. E così dopo voglio vedere se ti danno ancora 600.000 euro all'anno a Radio 24 per fare un programma che continua a calare di audio. Hai capito, coglione? E allora siccome vuoi fare il coglione con me, tu il coglione con me non lo fai! Hai capito? Perché me di te, Crociani, come mi hai fatto il cazzo! Hai capito? Che a me per me non conti meno che una mia scureggia! Scorcerei! Perché io te non ti ho sposato, non sei mio fratello, non sei mio padre, non sei mio figlio, non sei nessuno! E quindi ti mando a fare il culo! C'è tensione, tradimento. De Giro, il trading online a commissioni basse senza precedenti. Visita degiro.it. Vi presenta La Zanzara. E sti cazzi! Oh, senti, il camion. Come fa, trombe, come fa? Tu, Cruciani, che difendi quei cazzo di camionisti. Io tutti i giorni sull'autostrada, che son pendolare, devo lottare contro quelle merde di delinquenti, di camionisti di merda, che non puoi andare alla tua velocità, che vengono sotto, ti suonano, ti sfanalano e quando ti sorpassano ti stringono nella corsia d'emergenza per farti un capri, per romperti i coglioni. Sono dei delinquenti, io li odio e io per me devono crepare tutti i tuoi amici camionisti di merda, una categoria di delinquenti del cazzo. Ma i camionisti sono bravi, io mi ricordo facevo amore con un camionista, era tanto buono e bravo. Io non capisco quell'astio di quell'ascoltatore contro i camionisti, francamente non lo capisco. No, vabbè, cioè anche nei confronti di Quirico e di altri, il mitico Quirico, ti abbraccio amico mio, mitico. Quirico. Io ti se chiamo. Volete trovare Quirico, andate al bioparco di Roma nella gabbia delle scimmie. Ma lo no, trovate lì. No Quirico ti abbraccio, sei un grande, ma sei abbracciare un, perché è un involuto, ma di cosa ci parli con Quirico? Ma se che, lo vedi, ma come? Che di cosa ci si parla con Quirico? Ma tu parli io solamente voglio... con i colti, no, con i cosiddetti io colti. No, io voglio, guarda, questa è la mia filosofia ormai. Io siccome, diciamo, ho 41 anni ormai. Beh, tra allora poco 42, voglio frequentare solo persone che reputo più intelligenti di me o intelligenti come me. Non mi va più di frequentare, di sentire gli idioti. Ma che cazzo voglio c'entra? Fare una selezione, arrivate alla mia età, io voglio avere il privilegio di frequentare solo persone o più intelligenti di me, che quindi sono tante, mi possono insegnare delle cose, oppure persone come me, non imbecilli. Ma cosa non c'entra? Ho tempo per gli imbecilli, il mio tempo è poco, non lo voglio sprecare con degli involuti come quelli che chiamano qua, che sono degli involuti il 90%. Luciano dalla provincia di Fermo, dai. Involuti. Mamma mia, Luciano, provincia di Fermo. E non è snobismo, è proprio tempo, mancanza di tempo. Ma che cazzo dici? Ma Luciano, sì, provincia di Fermo. Buonasera. Dimmi. Paese reale, che paese reale. Volevo intervenire con Parenzo, che lui è. Vediamo. Prima. Vediamo. Dai, forza, vai. Sì. Con Quirico che parlava, no? Involuto, questa cosa. Sì, totalmente involuto, era chiaro che era un involuto. Dal pensiero sì. Totalmente però, non articolato. Volte, no? Le persone intellettuali che come ma non lei, intellettuali, ma persone normali, no? Io non voglio intellettuali solo, con quelli ci parlo. Vabbè, ma allora non c'è, dai, forza. Normali, dunque. Persone normali. Però quando parlano fanno più male di Quirico. Non c'è dubbio, ma assolutamente, certo. Sono tutte cazzate, dai, su. Ma chi fa più male? Sì, sì. Ma uno stupido fa più danno di una persona. Questo, lasciamo da una parte questa qui. Volevo intervenire su Nazi Skin di Padova, no? Sui Nazi Skin di Padova? Quali Nazi Skin di Padova, scusa? che intervenuti in quell'aula. Vabbè, l'aula quale? Quelli del Veneto hanno intervenuti a Como. Ma mi sono sbagliato. No, no, Veneti del fronte Skinhead intervenuti. Vabbè, allora, invece di fare tutto questo gangan tutti quanti, no? Ma vi domandate perché succede? Una domanda. Perché succede? Dimmi, perché questi sono degli idioti, secondo me. Poi anche perché? Sono anche degli idioti. Succede perché c'è un governo che non aiuta la gente che ha bisogno, no? Ma che cazzo c'entra con questo, con quei quattro deficienti che vanno a fare quella comparsata lì? Cioè, non c'entra assolutamente niente quella roba lì, niente, nulla. Massimo da Roma. Non c'entra niente, ma niente, Massimo da Roma. Massimo da Roma. Massimo, dimmi. Pronto? Dimmi. Ciao, buonasera, io la prima volta che chiamo. Sì, Massimo. Volevo dire una cosa. Si sente che è la prima volta che chiami perché non si sente una mazza. Comunque, no, dimmi. No, no, vabbè, comunque mo mi faccio sentire. Ho una cosa, io volevo sapere... Sì, ma devi togliere viva voce, devi togliere l'auricolare. L'auricolare. Non c'ho niente. Vabbè, allora non si sente. Vai, dimmi. Aspetta, mi fermo. Ecco. Fermati, ecco, bravo. Volevo sapere da Parenzo, che lui sicuramente annuiva al momento che il signore dell'interlocutore di prima diceva che dobbiamo ripopolare questi comuni, no? Sì, i piccoli comuni. Sta già avvenendo. Per quale motivo? Riace. No, aspetti, per quale motivo sono stati spopolati questi comuni? E si sono spopolati per mancanza di lavoro, perché la popolazione anziana... Non mi risponde, il motivo è semplice, purtroppo. No, aspetta, scusi un secondo, però io dico una cosa, adesso noi ripopoliamo con chi? Con questi ex comunitari che poi comunque... Ma è una puttanata questa roba qua, sta già avvenendo, è un'idea geniale, a Riace sta avvenendo con grande successo. Far rivivere i borghi, come no? Diamo una mano ai giovani italiani a far figli, facciamo... Però questo non c'è. Con quel signore che è intervenuto prima, non mi ricordo il cognome. Librandi, perfetto. Anziché chiudere gli asili, apriamo gli asili, diamo possibilità a queste persone di fare figli, non importare gli extracomunitari, che siamo pieni fino all'ultimo pelo della testa, per non dire un'altra cosa. E io lo posso assicurare, perché io lavorando faccio un lavoro che sto tutti i giorni in mezzo a questa gentaccia maledetta. Chi è la gentaccia maledetta? Chi sarebbe? Tutta gente maledetta, tutta gente. Come gli è? Come gli è? Chi? Tutti gli extracomunitari. Sono maledetti. Non fanno niente tutto il giorno con l'iPhone, cuffie, cuffiotte, i pantaloni se ne mutande, ma si imbriacano con una massa di sozzoni e basta. Mio padre nel 67 è andato in Venezuela a lavorare. Con tanto di contratto, ditegli a questa gente che non capisce niente, non capisce. Allo Stato italiano vanno dette queste cose, che non capiscono niente questi. Erano trattati a pesce in fascia, in miniera. A 17 anni in miniera. Ma perché io non riesco a capire una cosa. Non riesco a capire perché se dici che sono tutti di zozzoni che stanno con la birra a mano, con la tuta, che si toccano il culo, il pisello. Certo, perché è verità. Che fanno? È verità che se toccano il pisello dalla mattina alla sera? Ma se toccassero quello che gli pare, ma che mi frega a me quello che si tocca? Il problema è che sto una massa di sozzoni scansa fatiche, non fanno niente. Ma perché? Perché? Perché è verità? Ma c'è tipo, ma la stazione d'armi deve andare a fare una passeggiata. Ma che c'hanno? A tutte le ore, non fanno cazzo. Senti, posso operare i termini giusti? Non fanno proprio un cazzo tutto il giorno. Ecco che fanno, non fanno niente. Gli extracomunitari. Ciao, Massimo. Ciao. Allora, c'è un signore a Firenze, un consigliere regionale del Partito Democratico, che è stato attaccato perché ha il manifesto, il poster di Che Guevara dentro la sua camera, dentro il suo ufficio. Attaccato perché? Allora, bisogna dire le cose come stanno. Un atto incostituzionale. Qualcuno ha paragonato il poster di Che Guevara alla bandiera non nazista, la bandiera dell'esercito guglielmino, del carabiniere. Ma lo vogliamo dire che Che Guevara era un assassino che ha ammazzato migliaia di omosessuali? Non c'entra niente, ma cosa vuol dire? Comunque, fammi chiamare questo che è Scaramucci, là, come si chiama? Scaramucci. Scaramelli. Pronto? Caramelli? Salve, buongiorno. Radio 24, come andiamo? Bene, bene, bene. Siamo qua travolti da questa situazione. Che travolti? Lei ha questo poster di Che Guevara, credo, sì, no? Come molte persone, sì, per carità, in Italia, no? Sì, sì, io sì, avevo sì, un mio compagno di classe che poi è diventato magistrato addirittura, che aveva dentro la sua stanzetta tantissimi poster e bandiere col signor Che Guevara. Ma nulla di male. Il tatuaggio del Che Guevara, poi è venuto fuori questa cosa. In lei ha pure un tatuaggio? Sì, sì, quindi non è più un segreto perché poi alla fine... Dove l'ha messo sto tatuaggio? Ce l'ha nel braccio, ce l'ho. Sul braccio, senza... tatuaggio. Ma nulla di male mi pare una cosa... Allora, qualcuno ha affiancato questo tatuaggio di Che Guevara, tatuaggio, in realtà questa bandiera di Che Guevara negli uffici della regione, alla bandiera del... Ma lì è un'assurdità perché quello totale è una apologia del fascismo, è reale. Bravo. Che la Costituzione è vieta, per me il CE è un certo ideale, un valore che si ispira alla difesa dei più deboli, a sentire proprio la sofferenza degli altri, è proprio una cultura politica che mi porta dietro da ragazzo. Insomma, quel manifesto lo tengo con me da quando avevo 15 anni e ne sono gelosissimo. Bravo. Ho capito, però lei si rende conto di avere dentro la sua stanza al Consiglio regionale il poster di un assassino? Ma sì, un rivoluzionario. Che no, un assassino, perché Che Guevara è tecnicamente un assassino. Lei lo capisce o no questa cosa? Me lo dica. No, Che Guevara ha fatto una battaglia di liberazione per i popoli che soffrivano. E come noi di quella cultura, di quella battaglia politica l'abbiamo fatta anche quando ci siamo liberati dal fascismo e con la lotta di liberazione dei nostri partigiani. È un principio politico differente, ha combattuto per la libertà di alcuni popoli. Ho capito, ma ha perseguitato gli omosessuali, migliaia e migliaia di omosessuali portati nei campi di sterminio a Cuba. Lo vogliamo capire dopo tanti anni che al di là delle leggende, al di là delle cose, è stato anche un assassino? Sì o no? Dunque lei ha come mito un assassino, va benissimo, per carità. Non sto esaltando nessuno. Sì, dice che è un suo modello. È un modello di libertà e di giustizia. Ce l'ha pure sul braccio. Dice che i popoli si liberano. Sto spiegando. No, ma ho capito la frase. Ma la frase sono degli slogan. Dai, su. Un ideale che fa riferimento. Ma lei vuole vedere solo le frasi. Non è che vede la realtà. La realtà è che Che Guevara. Il nazismo aveva un'idea di annientamento della società. Io, siccome sono una carica istituzionale, rispetto le leggi italiane. Che c'entra l'Italia? Allarghi. Sì, ma allarghi un po' il perimetro. No, mi chiedere perché lei si ispira al Che Guevara. Io posso dire? Perché ma lei me l'ha già detto. A sentirsi proprio le sofferenze degli altri. Ancora. Era un assassino. Era un assassino. Ma come secondo lei? Secondo la realtà? Penso che è morto in una guerra di liberazione, come tanti partigiani. Ha inviato migliaia di... Anche alcuni partigiani. Alcuni partigiani sono stati anche assassini. Ma cosa c'entra? Ma i partigiani hanno liberato l'Italia. Si legge i libri di Panza. Si legge i libri di Panza. Ha assassinato migliaia di omosessuali nei lager, li ha portati a Cuba. Studi la storia meglio su Che Guevara, se non la sa. Perché uno può avere tutti... Ma vede, lei sta facendo una trasposizione di un elemento... Ma che ha paragonato. Quello è un altro discorso. Ha una rappresentazione, invece ha un ideale politico. È comunque ma non è ideale politico. Lei è il suo ideale politico? Lei parli di quello che è lei e io di quello che sono io. Io non sono un assassino. Sì, la violenza verbale di queste settimane, certo, della deriva populista e fascista di questo paese, vero, è un pericolo per la democrazia. Il pericolo fascista. Lei, per esempio, impedisce di esprimere le mie opinioni. Come no? Lei sta impedendo di Ma figuriamoci. Io l'ho chiamata apposta. L'ho chiamata apposta che le impedisco di dire le sue opinioni. Ma in Italia tutti possono dire tutto in qualsiasi momento. Ma di che sta parlando? Purtroppo allora, qual è il problema? Tranne che fare apologia del fascismo, esatto, non si che può è un reato, esatto. Quello è un altro discorso. Ma quello è un altro discorso. Ci sono i giudici a dire quando è apologia del fascismo. Non è lei direttamente. Sbaglia la Lega a paragonare un ideale politico all'apologia del fascismo. Bisogna studiare. Il comunismo ha tante sfaccettature. Nel mondo hanno ammazzato centinaia di migliaia di persone. I comunisti, chiaro. Opinione, no, ma come la mia opinione? È un fatto. Che vuol dire? Ma Fiong Yang non c'entra nulla con il comunismo europeo e con Berlinguer, ad esempio. Quando vi conviene, siete con gli occhi verso l'Italia. Ma il nazismo è nazismo! Il nazismo non è che ha diversificazioni. Il nazismo è nazismo. Il fascismo è fascismo. Il comunismo è Berlinguer e quella pazzi. Merda di Fiong Yang. Non fare i distinguo, vuol dire non capire nulla. Chi ha detto che non allora come fai a dire? E i milioni di morti? Certo. Ma quali milioni di morti? Quello è il comunismo sovietico. Il comunismo di Pyongyang, il nazismo e il fascismo sono finiti. Se vogliamo fare la storia, facciamo la storia allora. Consigliere, arrivederci, buona serata. Arrivederci. Adesso la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Ascolta, che tu ti sei allontanato. A me non me ne frega un cazzo. naturalmente. Ciao Cruciani, sono Kudret dell'Albania. Ma che cazzo c'hai a cante con la merda lì, comunista del cazzo? Ma metti in confronto che hanno fatto i comunisti nel mondo, da Stalin di merda, da Mao Zedong, da tutto, dalla Cuba, da tutti i cazzi del mondo che hanno ammazzato milioni di persone, e quel merda lì dice dalle foibe che hanno fatto in Jugoslavia contro di voi. Ma che cazzo dice quello lì? Mi ha rotto il cazzo, solo i comunisti, i fascisti hanno fatto quello, hanno fatto questo, ma i comunisti hanno fatto peggio di tutto il mondo, hanno ammazzato i loro fratelli, dove erano e dove non erano. Ciao! Ma tutti sti cazzo di mongo fasci di merda, cosa fanno dalle 18.30 fino a circa le 21? Ascoltano la Zanzara a testa in giù e non gli va il sangue alla testa, forse per questo sono tutti pazzi e dicono cazzate. C'è tensione, tradimento. Allora, ieri è intervenuto Francesco, un ascoltatore con pesanti critiche su questa trasmissione. Dico, siete rimasto, due avanti. Personaggi che avete qualche neurone dentro. Questo no, pochissimi, pochissimi. Ma molto questo usatelo. Sarà che devo sentire solo ultimamente solo grandi puttanate da tutti. Ari, dai, ma ancora. È mai possibile? Sentiamo questo il professore, io. Avanti, sentiamo il maestro. Con tutti questi cazzo di scherzi che mandate, in cui non dicono quali nulla scherzi? Se non parolare. Quali scherzi? Che cazzo quali scherzi? Ora, ma quali scherzi? Poi, senti, tu non devi né ridere, tu non devi né ridere, a parte che quello non l'abbiamo fatto noi, tu non devi né ridere. Ma tu né... lo mandi, quindi che cosa io vuoi? Mando il cazzo che mi pare. Andate a guardare chi cazzo vi sente. Secondo me vi sentono in mezzo a 60 milioni di italiani quei 3 milioni più imbecilli che ci sono. Risposta degli ascoltatori a Francesco. Francesco, noi ascoltiamo questa trasmissione perché aspettiamo le teste di cazzo come te che telefonano a giudicare noi che ascoltiamo. Tu non sei di questo popolo, semplicemente non sei di questo popolo, quindi togliti dai coglioni, eh? Ma che cazzo è questo Francesco? Io sono un medico, sono un relatore internazionale e ascolto la Zanzara da 10 anni. Potete riferire a quel figlio di troia che si è definito testa di cazzo pensante e figlio di puttana, che non è che sono tutti imbecilli quelli che vi ascoltano? Io mi diverto a sentire le stronzate e non ho voglia di l'indagine giornalistica. È la Zanzara, hai rotti coglioni, cambia canale, testa di cazzo, e non provare mai più a chiamare Cruciani, coglione. E cancella le mie foto. Allora, Davide, ti voglio offrire un messaggio alla nazione. Da domani trasmetterò a Tel Aviv. Quindi domani, saranno... domani Tel Aviv, sì. Domani da Tel Aviv. Domani sono a Tel Aviv. No, beh, no, questa no. Questa... Beh, in realtà, però, si arriva con in un momento, sta... si arriva esatto, in un momento questo piuttosto. Volevo dirti. Arrivo in un momento piuttosto interessante, chiamiamolo dal punto di vista anche giornalistico. Piuttosto vivo, no? So, piuttosto vivo. Domani dovresti fare così. Sono a Tel Aviv, ma la capitale è Gerusalemme. Beh, quello la capitale è Gerusalemme. Ma quello. Porci palestinesi, questo no, dovresti dire. Perché non lo dici? Perché non sono porci palestinesi, tutt'altro, anzi hanno il diritto ad avere uno stato libero, indipendente, sovrano, eccetera. Ragazzi, era un gioco, era un gioco, era uno scherzo. Io domani comunque sono a Tel Aviv e ci sono transessuali a Tel Aviv, secondo te? Pieno di transessuali. No, secondo me, c'è il Gay Pride, ci sono a Tel Aviv, c'è una grande democrazia. Pieno non lo so, ma c'è una zona, quella vicino al porto, dove ci sono i transessuali. Vabbè, sicuramente. Allora, certo. Ti voglio offrire la seconda puntata, il volume 2, come si dice nel cinema. Volume 2. Domani la Zanzara da Tel Aviv, benissimo, questo voglio benissimo. Dire. E sabato sera incontrerò a cena uno dei più grandi intellettuali israeliani, te lo voglio dire, che è lo scrittore Yoshua, uno dei più grandi intellettuali israeliani. Uno no, Quirico non sa chi è io. Sì, non sa neanche come si scrive Yoshua, non lo sa. Non ho sentito bene. Qui ci poteva stare, allora, sono d'accordo. Seconda puntata, con la nostra trans del momento, Alessia Nobile. Cara Alessia, come stai? Ciao, benissimo, sempre allora, in forma, la grande. Senti, voglio leggere alcuni messaggi di Parenzo, perché l'hai richiamata, no? Sì, questa no, per carità, allora, avrà delle cose da dire importanti sulla dichiarazione di Trump, avrà no, delle no, cose... No, no, no, ci sono dei messaggi che le sono arrivati. Senti qua, ciao cara, ti ho sentita ieri alla radio e volevo dirti che mi sono sentita molto male per te. Non dovremmo essere costretti a prostituirci per colpa di una società bigotta. Ti stimo per la forza che hai. Grazie del pensiero. La Zanzara in maniera comica ha voluto lanciare un bel messaggio. Questa è la risposta di Alessia. Poi un altro. Poi è bella? Questa è molto bella. Ci sono i clienti poi. Uno che ti manda un cuore. Gentilissimo, grazie carissima. Come mi hai trovata? Stupende, molta classe e tanta eleganza. Intendevo dire tramite chi sei arrivato a me. Ti ho sentito ieri sera alla trasmissione alla Zanzara. Hai una bella voce. Ah, grazie. Ma poi con questo hai scopato? È venuto da te o no? No, mi hanno chiamato. Addirittura mi ha mandato il messaggio poco fa un tipo di pugliese che abita a Londra. Addirittura, quindi, vuole venire da te? Sì, vuole provare vuole avere la prima esperienza con me. Con un trans, bene, questo è molto buono. Un pugliese che sta a Londra, che ha sentito la Zanzara, vuole avere la prima esperienza con una trans, con Alessia, dopo averla sentita la Zanzara. Questa sai è che potresti pura, essere accusato pura... di sfruttamento della prostituzione? No, sfruttamento no, perché non prendo un euro. Pura ma magari mi accusassero come con Cappato di istigazione alla prostituzione. Di istigazione. Ma noi stiamo parlando di cose classiche. Ma sì, ma per carità. Allora, un altro ha lanciato, un altro ti ha scritto: buongiorno, complimenti per tua avvenenza, femminilità e sensualità. Non sapevo della tua esistenza. Grazie alla Zanzara ti ho scoperta. Vorrei avere la prima vera esperienza con te, sia come attivo che come passivo, addirittura. Sì. Te la senti di provare? Sempre quello. Sì, vabbè, il tema è sempre quello. Te la senti di provarci quando vuoi, caro? Io ci sono, rispondi tu. Grazie mille, devi essere proprio una bella e brava persona. E poi rispondi con i cuoricini. Insomma, io credo che questa trasmissione ti abbia procurato clienti nuovi, diciamo, nuovi clienti. Ma guarda, a parte i clienti, ma questo è importante, hanno apprezzato proprio il nostro modo di esporci. Allora, capito? Io e voi. Scusami un attimo, Alessia, ma il prete di Palo del Colle, dove abiti Palo. Tu, che prete è quel prete là? Ma guarda, io non lo conosco bene. Tempo fa sono andata per una confessione. Perché io ha ospitato Povia. Lui ha ospitato Povia perché lui è contro il gender, quindi è a favore della famiglia Barilla. È a favore della famiglia Barilla. Insomma, Barilla adesso non è più a favore. Ma cos'è Povia? La famiglia del Mulino Bianco. Ma dici. Che cos'è Povia? Sì. Cos'è Povia esattamente? Povia, cos'è? Povia come lo posso chiamare, uno sfigato che cerca appunto un omofobo praticamente. Omofobo sicuro, in realtà che è un lui omofobo. Sì, canta l'omofobia ma la nasconde tra le righe, ecco quello è uno sfigato. Ma uno può cantare Luca era gay ma adesso sta con lei, ma cosa vuol dire? L'omofobia, certo. È una malattia, ma infatti scusami, certo, è una follia a parte brava, che sì, è vero, è una follia pura, certo. A Palo del Colle, Palo ancora con questo palo, ma cos'è così palo? L'unico palo è quello che ha lei, io conosco qui il palo vicino a Roma, è quello che ha Alessia, l'unico palo. Questo parroco con Povia hanno organizzato sta manifestazione. Che vuoi dire? Quindi, al parroco? Provi anche. Voglio dire al parroco che. Al parroco del tuo paese, cosa vuoi dire? Al parroco, sì. Lui sostiene di non essere omofobo perché il suo era un convegno per la famiglia. E io rispondo: prescindere da quello che tu hai detto e da quello che tu hai fatto con Povia. Ma ti faresti sposare dal parroco tu? Da lui sicuramente no, perché ho anche le mie perplessità riguardo la sua castità. Cioè in che senso, scusa, non ho capito. Che comunque una persona che è così è contro, si schiera contro in maniera cattiva contro gli omosessuali e transessuali. Cioè secondo te nasconde qualche cosa? Nasconde qualcosa? Ha qualcosa di nascosto, qualcosa dentro. Senti, ma sei mai andata con un prete? Allora, io sinceramente sì, però in versione omosessuale. Ho avuto dei rapporti... Cioè in versione omosessuale quando eri maschio, diciamo. Quando ero gay, perché etero non sono mai stato. Quando ero gay, ho avuto dei rapporti... Con preti. Due. Dei sacerdoti, diciamo, conosciuti, diciamo, al nord Italia. Ma adesso vengono da te sacerdoti? Senti, sì... Questo non te lo posso dire, perché uno potrebbe venire senza colletto però, a casa mia, però alcuni possono vagamente darmi quell'impressione, perché sono molto molto, diciamo, come si approcciano. L'approccio è molto particolare, quindi senti, però questo sacerdote che è del tuo paese, sì. Palo del Colle, ripeto, l'unico palo vero del paese, sì. Mi sembra che è quello che hai tu. Sono io. Sei tu, eccetera, il palo, diciamo, come dire, il tuo, sì. Il tuo piccolo palo che hai tra le gambe, che è anche il tuo piccolo tesoro, diciamo. Ma la verità è certo, di sti tempi è il suo tesoro, diciamo, è la sua, è la sua fonte di reddito, diciamo la verità. Quello... visto e considerato il fatto che nessuno è disposto a dare lavoro a me, no, adesso non è che tu dici, perché qualche trans mi ha pure scritto dicendo: ah, non si può far passare il messaggio che uno si prostituisce oppure non può lavorare, certo, oggi se è trans. Una mia... Ho capito, però magari vabbè, la maggior parte è così, è ovvio, cioè, se c'è un datore, cioè, di lavoro, dici, è difficile per una trans lavorare oggi, comunque. Ma è difficile. Io ho fatto dei colloqui di lavoro in passato, e quando poi hanno diagnosticato, ovviamente vedendomi, la mia transessualità, hanno detto: ti facciamo sapere. Arrivederci, grazie. Dici. Arrivederci, grazie, sto ancora aspettando la chiamata. E alla fine... Questo vale anche per le case in affitto. Non danno affitto, non danno case in affitto alle trans. E alla fine, certo, battete, è difficile uno. Però ad altre categorie le danno. Comunque, diciamo la verità, a te piace tantissimo, un po' piace fare la mignotta, dai, diciamola tutta, un po' fare la puttana ti piace. Ma sai perché mi piace? Perché incontro tante persone positive, tanti uomini che vengono da me. Quelle puoi incontrare anche a teatro, però. Mi amano. Ti amano, te pagano. Mi amano anche per quel momento. Ma sì, ma... Mi hanno anche insegnato tanto. Senti, ognuno ma... la sua storia e mi aiuta molto. Qual è la storia più incredibile? Cioè, uomini sposati che non riescono a stare con la moglie, che non riescono. Sposati, gente che ha perso la moglie in un incidente. Vabbè, e ha pensato che dovesse andare con una trans per non tradire questo amore distrutto senza motivo. Sì, sì. Ma secondo te, andando con una trans, questi pensano di tradire oppure no? Ma loro no, perché loro dicono: in realtà noi andiamo con una figura, cioè, che non ha fisicamente le stesse cose che mia moglie. Cioè, dunque non si sentono. Ma secondo te quelli che vengono con te sono gay? No, assolutamente. Sono etero. Sono perché etero. Comunque hanno dei, cioè, sì, amano il terzo sesso. Se uno pensa. Sì, però gli piace il pisello, però non c'è niente. Ma non dell'uomo, della trans. Della quindi trans. La figura è vero, sempre, sono un po' particolari, diciamo, sono dai. Sono diciamo bisex. Almeno così. Senti, sono... ma ti arrivano richieste di coppie? Anche coppie, sì. Sei andata coppie, con... Quanto costa andare? Per esempio, se tu dovessi dire... per la coppia, per la coppia. Io chiedo cifre astronomiche. Cioè? Che te frega? Tanto, ma in realtà non le incontro. No. Senti, cioè, ma tu a Bari un po' sei sulla piazza da un po' di tempo, no? Cioè, beh, chi è io la... sono di Bari originaria. Sì, ma tu operi intorno alla piazza di Bari. Ma chi è la trans regina di Bari in questo momento? Quella più apprezzata, quella più ricercata a Bari? Ma questo non lo posso dire, perché comunque ci sono anche su Bari molte straniere, quindi non si può... Italiana, diciamo italiana. Chi è la regina? Ma io penso che per quanto riguarda i sigli annunci, cioè, io sono di Bari e so Bari. Tutto quello che passa non è originario, non è, capito? Capito, non lo so, capito. Comunque, diciamo una cosa, tu hai lanciato un'accusa al prete del tuo posto, dici ho dei dubbi sulla sua castità, quello che affermo adesso è che il mio schierarmi contro è dovuto al fatto che in precedenza all'evento a Pavia lui mi ha voluto incontrare perché io ho chiesto a lui di confessarmi. Allora? Quindi sono andata e l'evento a Pavia non esisteva nemmeno. E lui ti ha accolto, no? Ti ha fatto confessare? Dopo avermi ascoltata ha detto può andare, questa non è una confessione e non ti posso assolvere. Ma io non quindi ho che cosa vuol dire? Ma questo? Non ho capito una cosa, amica mia. Questo, tu sei cattolica? Sei cattolica? Io sono cattolica, credente. Certo. Lo so, amica, perché questo è un dramma. Se tu non puoi non ti ha voluto assolvere. Non mi ha voluto assolvere, quindi quelli sono cazzi, il mio dire adesso è ma questo. Secondo te la religione, i cattolici dovrebbero ammettere pure i trans? Dovrebbero... Senti, in realtà Gesù. Quasi tutti, cioè, allora adesso ci sono eccezioni contro. Io sono rispettata e amata da molti cattolici e da sacerdoti, anche diciamo. Però questo qua del tuo paese, questo qua. Vabbè, cara amica. Positiva e negativa. Cara amica. Lui è negativa. È negativo. Cara Alessia, mi raccomando. Con un orgasmo? Come con un orgasmo? Come fai? È tutto finto, però. Ho capito, però non era vero. Chi lo dice questo?